Nerdcast 12. Cari ascoltatori e come sempre soprattutto cari ascoltatrici, benvenuti Nerdcast 12 dopo un mese, non dopo due settimane come avevamo detto, ma ritorniamo, comunque siamo vivi. Saluti da Murtag, Malloman, Rampage e Garridan. Salute, un po' di lag ma va bene, siamo di nuovo qui, dovevamo tornare come detto dopo due settimane, ma vabbè, i soliti impegni. Prima di iniziare subito, volevamo ovviamente ringraziare chi ci aveva scaricato, chi aveva downloadato la puntata, sono stati in molti, siamo abbastanza... Pochi coraggiosi, dai. Come? Pochi coraggiosi. Sì, e compresi noi, questo è il problema. E nel frattempo abbiamo anche creato un gruppo di Facebook che non so se fosse attivo già l'altra puntata. Comunque, iniziamo a dare subito i contatti adesso e alla fine. Iniziamo dal... No, non lo era. Iniziamo dall'email. Nerdcast@gmail.com con una altra Nerdcast. Il blog è www.nerdpodcast.blogspot.com. Abbiamo appunto questo gruppo su Facebook che trovate digitando appunto Nerdcast e trovate il logo di Nerdcast e poi abbiamo i Twitter. Il mio Twitter è www.twitter.com/nerdfats. Andate voi con i vostri. Il mio è semplicemente Malloman. Il mio è Wish Freedom. Mi trovate con DevilSir92 su Twitter. Perfetto, noi siccome stiamo già registrando un'ora abbastanza tarda, iniziamo subito con le Nerd News. Nerd News. Perfetto, come iniziamo con le Nerd News? Rampage, vuoi iniziare tu? Con la tua prima? Sì, posso iniziare io. Allora, vai. Una delle notizie che più mi ha lasciato colpito in questi giorni è un'entrata, diciamo, di quelle forze politiche che ogni tanto noi ci troviamo a contestare per molti aspetti nel nostro nido che pensavamo essere protetto dalle influenze dei videogiochi. Sto parlando di... del sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega alla famiglia Giovanardi, il quale ha lanciato un attacco contro praticamente The Sims, The Sims 3 in particolare, che ha cominciato a dare la possibilità all'accoppiamento all'interno del gioco di coppie omosessuali, e questo ha suscitato grande scalpore tra lui, il segretario dell'UDC Carlo Casini, che hanno attaccato con parole molto forti questo gioco, che citandoli proprio allontana, con queste iniziative viene tolta la normalità costituzionale per spiegare al bambino che invece è tutto lecito, tutto uguale, che possono essere messe sullo stesso piano situazioni che giuridicamente e costituzionalmente non lo sono. Insomma, hanno cominciato a fare... Respira che non ti ammazza nessuno. Hanno cominciato a fare molto casino e secondo me non era proprio il caso. Si sono anche accaniti contro un gioco che a me sta molto a cuore, che è Mass Effect 3, in quanto c'è stato un annuncio che, diciamo, avere rapporti sessuali era già possibile in questo gioco, omosessuali soltanto tra personaggi del sesso, entrambi del sesso femminile. Da Mass Effect 3 sarà possibile anche averli tra due del sesso maschile, e anche questo ha suscitato molto scalpore. Non so, voi che ne pensate? Mi sembra abbastanza vergognosa una cosa del genere. Allora, aspettate un attimo. Io credo questo. Allora, The Sims crea rapporti tra omosessuali, fa creare rapporti tra omosessuali, credo proprio dal primissimo The Sims, che tipo è di quasi 10 anni fa. Le polemiche ci sono state, vabbè, qua ci sono state, diciamo, in piccola parte rispetto a quelle che sono state in America. Io ricordo che quando è uscito il primo Mass Effect, ci sono state delle polemiche pazzesche per il fatto che si intravedeva qualcosa, una scena di sesso, ma che poi, cioè, non era, durava forse una roba di 8 secondi e hanno fatto un bordello micidiale. Adesso, a parte che The Sims, e poi c'è stato un punto a Mass Effect in cui io ho giocato solo per ottenere quel risultato, sì, vabbè, chiaro. Quello mi sa un po' tutti che sbagliato, però a The Sims, cioè, a parte che The Sims 3 non è un gioco uscito ieri, quindi accorgersene adesso, non lo so, sarà arrivata adesso alla testa questa cosa, non lo so. Comunque io dico questo, cioè, queste polemiche, sì, bisogna ascoltarle, ma neanche troppo. Cioè, dargli peso è la cosa che vogliono questi politici. Meno gli diamo peso, meglio è. Ma comunque, cioè, qua stiamo a proibire tutto praticamente. Piano piano ci stanno proibendo tutto quanto. Non lo so, io l'unica reazione che ho è non dare. Ma ascolto, semplicemente, cioè, io non capisco. Voglio dire, è una possibilità come un'altra. Non ti piace fare il matrimonio gay? Non lo fai nel gioco, punto. Non vedo perché ci debbano essere tutte queste critiche. Ma, vabbè. Sì, no, lasciamo perdere. Cioè, proprio, non, sinceramente non so cosa aggiungere. È una notizia che resta là, ne prendi atto, ma poi ti fanno pena notizie del genere. Che cosa, sì, cos'altro puoi fare? Non lo so. Va bene, andiamo avanti. Malloman, prego. Allora, una delle news che mi piacerebbe, di cui mi piacerebbe parlare, è appunto il fatto che Microsoft, durante la conferenza della Mix 2011 di quest'anno, ha rilasciato l'SDK, ovvero il Software Development Kit, che consentirà di sviluppare le applicazioni per Kinect su Windows. Quindi avremo prossimamente la possibilità di giocare con Kinect proprio su PC. Sì, questo era, ovviamente si aspettava, perché l'annuncio di Microsoft c'era, però in effetti il Kinect su PC apre delle porte infinite, secondo me, perché sì, anche perché sarà più potente, a quanto pare. Leggevo delle caratteristiche che saranno di gran lunga superiori rispetto all'Xbox e alle console, quindi aspettiamoci giochi decisamente migliori. Sì, è pazzesco. Poi appena gli hacker ci metteranno sulle mani, chissà cosa succederà. Bene, Garriden? Io porto prima la news più soft, va, è giusto, più che una news un pettegolezzo. Sfogliando qualcosa su Tom's Hardware, è uscito un articolo simpatico, se vogliamo così chiamarlo, sulla Apple. Tanto simpatico, ossia, sì. Più precisamente sulla Apple Care, per che la serie, è il scusami, per la serie, cioè, ora, in questo podcast parleremo la cosa di Apple praticamente poco. Che lascia perplessi è che sulla piattaforma Mac di virus se ne vedevano davvero pochi, tanto meno siamo visti malware. Tuttavia adesso Mac è un sistema abbastanza popolare, quindi anche i malware sono approdati su Mac, in particolare un paio di questi, uno in particolare chiamato Mac Defender, sta dando filo a torcere agli utenti Mac. Ed Apple Care, a questo punto cominciano a vedersi un pochino i falli di Apple Care, in quanto nei loro termini di servizio dicono che Apple Care non si occupa di rimozione di malware. Questa cosa ha lasciato abbastanza perplessi tutti quanti gli utenti Apple, che da prima chiamavano e non ricevevano assistenza, oppure ricevevano assistenza, tuttavia veniva specificato che non era assistenza fornita dal centro, erano solo degli extra che venivano fatti dal centro. Dunque, perché questa scelta di Apple? Apple l'ha motivata dicendo che non è possibile assicurare a tutti che i malware vengano sconfitti, e di conseguenza avrete inteso, insomma, si tratta di un deficit della Apple, che speriamo cambi idea in un futuro abbastanza prossimo. Certamente non è possibile che non combattano più malware, però basti pensare compagnie come ESET, che garantiscono in 24 ore una cura per ogni vostro virus. Sono certo che Apple è capace di fare un qualcosa di simile, e sono certo che lo faranno, anche perché ci sono delle promesse effettivamente in cantiere. Sì. speriamo lo facciano, speriamo per gli utenti Apple, anche perché sarebbe un punto in meno per una piattaforma che vantava la sicurezza tra le tante cose, va. Ma cioè, comunque io voglio dire una cosa, di questo podcast praticamente questa è l'unica, di questo episodio è l'unica notizia di Apple, però diciamo questo. Mannaggia. Diciamo questo, anche se è l'unica, vogliamo spalare cacca come sempre, perché sennò non ci siamo, non ci divertiamo. Ma sì, dai, lanciamoci. Io ho cercato di essere obiettivo, dai. No, infatti questa volta ti ho visto meno cattivo del solito, questa cosa mi ha un pochino sì, no, perché capito, bisogna dare fiducia anche alla concorrenza fino a un certo punto, poi quando sgarrano completamente, ciao. Ok, allora vado io con la mia. Bene, questa doveva essere forse la news più lunga, perché ovviamente probabilmente è stato il l'avvenimento più discusso in quest'ultimo mese, cioè l'hacking del PSN. Adesso diciamo una cosa. Di questi noi, cioè di noi quattro che parliamo qua, l'unico che ha PS3 e ha un account PSN sono io. E quindi l'ho vista molto da vicino questa cosa. Senza andare a ripetere cosa è successo, o meglio a grandi linee, in pratica verso fine aprile, credo 22-23 aprile, il PSN è stato vittima di un attacco di hacker, i quali in pratica hanno disattivato tutte le funzioni prime del PSN e hanno depredato in pratica tutti i dati personali di ogni, si dice, di ogni utente. Dati personali significa carte di credito, password, email, eccetera. Il problema è che ancora non si sa con sicurezza in realtà cosa sia stato trafugato, non si sa quasi niente. Il fatto è che Sony non ha voluto dire assolutamente niente o proprio pochissimo di quello che è successo. Si sa soltanto che il PSN dovrebbe ritornare online fra qualche giorno. Adesso noi stiamo parlando verso fine maggio, quindi vediamo un po', sicuramente prima delle tre. L'hacking del PSN è stato praticamente la cosa, è stata probabilmente la mossa, la cosa più contestata a Sony, nel senso che un marchio come Sony, un marchio come PlayStation 3 e come PSN non aveva una, cioè aveva parecchie falle da quello che ho capito, perché gli hacker potessero penetrare e in pratica hackerare tutto. E questo è stato un errore madornale, nel senso, ne hanno parlato tutti quanti. Sony adesso va contro cause ultra super milionarie, eccetera. La cosa più, diciamo, la cosa che più spaventa un po' tutti gli utenti PSN, quindi anche un po' me, è che sono state trafugate, praticamente sono stati trafugati i dati delle carte di credito. Adesso io, per quanto riguarda me, non ho mai usato una carta di credito mia sul PSN, ho usato sempre quelle prepagate, però perciò in questo caso non mi preoccupo. Però probabilmente qualcuno adesso sa la mia password, perché la password che utilizzavo per l'account del PSN è praticamente la password, che è una delle password che utilizzo di più, per dirvi. Però ho pensato, non è tanto il fatto di andare a trafugare, sì, è anche il fatto di andare a trafugare delle informazioni così private, ma anche, cioè, la cosa che più mi preoccupa è che adesso a Sony dovrà fare qualcosa, probabilmente qualcosa di gigantesco per farsi perdonare. In realtà, che cosa ha fatto? Il programma Welcome Back di Sony, che è appunto questo programma che riguarda il ritorno del PSN con vari regali per tutti gli utenti PSN, è in effetti un po' deludente. Hanno dato, per ora almeno si sa, che per il mercato europeo daranno un mese di PlayStation Plus gratis per tutti gli utenti, solo un mese, e due giochi da scaricare a scelta tra 5, che sono Ratchet & Clank, Infamous, Dead Nation, Little Big Planet è Wi-Fi 8HD. Adesso io con la, con la grandissima fortuna che mi ritrovo, ne ho già due di questi tre, quindi io dovrò scaricarne due degli altri tre rimanenti. Quali hai? Non so. Ho Little Big Planet e Ratchet & Clank. E quelli che avrei scaricato io. LOL. Io credo che scaricherò Infamous. Boh, forse Wipeout, non lo so. Comunque, cioè, oltre questo, sono state annunciate altre cose, altri regali, tra virgolette, però non si sa bene che cosa. In generale ci sono state tantissime proteste riguardo questo, perché ovviamente qualcuno si sarebbe aspettato una ricompensa più, perché comunque si parla di dati personali trafugati, dati come carte di credito, quindi qualcosa di grosso. Infatti Sony, sì, molto grave prima, infatti Sony, come ho detto prima, sta subendo delle cause milionarie proprio da tutte le parti del mondo. E la cosa negativa al massimo è che Sony non ha mai reso chiaro cosa in realtà è stato trafugato. Poi ha fatto anche un po' delle figure del cavolo, perché ha dato colpa a destra e a manca senza rendersi conto. Per esempio ha incolpato il gruppo di hacker Anonymous, che si è ritenuto fuori. Di solito fuori, Anonymous, infatti, quando attacca dice di essere stato Anonymous, appunto. Cioè, anche perché lì mandano le facce con le maschere di V per Vendetta prima di attaccare, almeno questa è la leggenda. Beh, sì, non lo so questo. Comunque sicuramente Anonymous non è stata, anche perché nello statuto di Anonymous le forme di hacking non vengono utilizzate per trafugare dati come carte di credito, vengono utilizzate per mettere in subbuglio, diciamo, e basta, ma non trafugare dei dati personali delle persone. Diciamo che Anonymous ha un suo statuto che si può leggere pure sul sito ufficiale. E quindi siamo in questa situazione in cui, non so, Sony dovrà fare davvero qualcosa di sensazionale per riprendersi. Ormai sta crollando proprio un giorno dopo l'altro, dovrà fare assolutamente qualcosa. E questa è la situazione, questo è probabilmente, correggetemi se sbaglio, probabilmente uno degli attacchi di hacker più clamorosi della storia. Meglio riusciti, fra l'altro, cioè mi sembra assurdo che non siano ancora riusciti a capire chi è stato, chi c'è dietro a questa cosa. C'è pure sotto l'FBI e ancora non lo sanno. Ma come fanno? Ma hanno beccato gente improbabile, hanno beccato Osama Bin Laden l'altro giorno, come fanno a non prendere quello che gioca alla PS2 gratis, non alla PS3, scusate. Allora, secondo no, ma soprattutto... Eh sì, in effetti hanno preso Bin Laden e non riescono a prendere. Non lo so, ma sono giapponesi, che ne so, l'FBI giapponese. No, ma soprattutto ancora... la cosa che, se non sbaglio, no? Soprattutto all'inizio pensavano di aver risolto, invece poi è andata ancora male. Sì, no, pensavano di aver risolto, poi l'hanno buttato giù di nuovo. Sì. L'hanno buttato giù due volte, è stato pazzesco. Cioè, proprio delle falle impressionanti. Cioè, non ti puoi permettere una cosa del genere se sei Sony e soprattutto se hai dei dati così importanti. Perché... E con una quantità di giocatori così eterogenea, cioè distribuita, voglio dire, a livello internazionale, è veramente impressionante. La cosa sicura è che un bel gruppo di hacker si troverà un posto di lavoro alla Sony molto in fretta. Sì. Ha pure un bel posto in gabbia. No, non credo. Va bene, proseguiamo. Malloman, vai. Allora, sempre prima di parlare della mia seconda Nerd News, volevo appunto avvertire di due falle della sicurezza, sempre rimanendo in tema, quindi una di Android e la seconda di Google Chrome. Allora, per quanto riguarda Chrome, allora una società di sicurezza che è chiamata Vuben Security ha mediante un video ci dimostra come la sandbox è meno solida di quanto Google infatti questo attacco permette a un sito malevolo di scaricare del software dannoso all'interno del PC, che ha effetto solo però su sistemi operativi Windows. Quindi fate attenzione a chiunque stia usando Chrome, fate attenzione. Però comunque Google attualmente non ha ancora confermato la vulnerabilità. in quanto comunque la società, questa società non ha voluto rilevare i dettagli, rivelare i dettagli che consentono appunto questo bug. La seconda invece riguarda Android, e pare che l'applicazione Picasa è scoperta dalla protezione. E questa cosa però invece è stata confermata. Questa cosa è stata confermata. Quindi chiunque sia un utente Picasa faccia attenzione. Va bene, insomma, ci sono delle falle per quanto riguarda Google in generale. Quindi bisogna in generale fare attenzione ai ai sistemi operativi al sistema operativo di Google e a Google Chrome in pratica. E invece ci vorrei dire di YouTube. Allora sì, quindi tornando alla Nerd News, pare che YouTube sia pronta per lo streaming di tutte le compagnie maggiori di Hollywood, appunto Sony, Warner Bros, Universal, eccetera eccetera. A quanto pare l'accordo è stato raggiunto e quindi YouTube metterà in streaming questi film, però ovviamente si dovranno pagare. Si dovrà pagare la visione. Diciamo che non so se conoscete Vevo su YouTube. Sapete? Sì. Vevo, che schifo. Sì, si sa, lo sappiamo. Allora, spieghiamo velocemente che cos'è Vevo. Una cosa che mette le pubblicità prima dei video e devi aspettare per vederti una cazzo di canzone. Una cosa che mette le pubblicità prima dei video. Allora, sì, diciamo sì, di sì. Sì, è questo. Allora, diciamo di sì. E poi, soprattutto, con Vevo, cioè, quando un video musicale viene postato da Vevo, la musica appartenente ovviamente a quel video musicale, se viene postata da qualcun altro, viene immediatamente cancellata da YouTube, dal video di YouTube, immediatamente. Già se prima la sicurezza di YouTube era abbastanza stretta riguardo le canzoni, adesso con Vevo è quasi impenetrabile. Però dipende, perché Vevo non va ad investire praticamente su tutti gli artisti, perché sennò ovviamente sarebbe ultramilionario. Allora, secondo me questa cosa di YouTube, il fatto che è disponibile alle major hollywoodiane, mi sa un po' della stessa pasta, nel senso che film su YouTube, va bene, non se ne trovano tantissimi film interi, però si trovano. E il fatto sì, che in più parti, ma dai, si trovano. In più parti, ma si trovano. E secondo me il fatto di far entrare Warner, Sony, Universal crea ancora più sicurezza. Io sono per la libertà assoluta del file sharing, eccetera. Quindi a me non piacerebbe se accadesse una cosa simile. Però io la vedo proprio verso questa via. Cioè, YouTube si sta dando proprio verso i soldi, diciamo. Sempre più pubblicità, sempre più ristrettezza. Ma sai, leggevo anni fa sull'Espresso che comunque i bilanci di YouTube non sempre erano positivi, quindi secondo me è stata anche una scelta forzata da parte di chi sta in alto alla società, secondo me. Sì, sarebbe molto interessante andare a vedere in effetti YouTube cosa guadagna e cosa paga, soprattutto, perché cioè io non so se per esempio paga delle more o delle multe se degli utenti YouTube mettono qualcosa di illegale. Io questo non lo so, però sicuramente tutti si credono che YouTube sia una macchina di soldi continui. No, assolutamente no. Non si sa, sinceramente, questo non lo so, dovremmo... Guarda, in base a quanto ho letto, ti assicuro di no. Va bene. Non so negli ultimi tempi, ma... Ho capito. Va bene, proseguiamo. Garriden, prego. Bene, allora, questa volta vi porto una notizia davvero interessante, davvero mi ha fatto piacere vederla. Sfogliando un sito riguardo videogames così in genere, ho beccato una notizia di un sequel per un gioco abbastanza dimenticato. Non so se qualcuno di voi avrà mai giocato vecchio American McGee's Alice. Sì. Quello era un gioco davvero incredibile già ai suoi tempi, anzi non è stato molto apprezzato, devo dire. però ha avuto una sua schiera di fan ed era abbastanza macabro come gioco. Io personalmente mi sono divertito molto a giocarlo e non speravo neanche tanto in un sequel che era stato annunciato davvero molto tempo fa. Ora non parliamo di roba alla Duke Nukem Forever, ma si era dove per perso questo seguito, insomma. Finalmente è uscito questo video, abbastanza interessante, oddio. Non solo un video, molti siti hanno provato l'inizio del gioco effettivamente. Se date un'occhiata agli screenshot sulla rete, che troverete sul nostro sito dei link per arrivarci, insomma, noterete che è un gioco interessante. Ora non aspettatevi un gioco con una grafica mozzafiato, è un gioco con stile, cioè è un gioco di quelli che io personalmente apprezzo di più. Ha delle scelte stilistiche un po' particolari, ha dei grandi artisti dietro, indubbiamente, dei concept artist che hanno fatto non solo personaggi, ambientazioni davvero al limite dove si può portare una novella per bambini, insomma. E c'è davvero un qualcosa di ben costruito in questo gioco. Io spero davvero valga un bel voto sulla maggior parte delle riviste internazionali. Al di là di questo, anche se fosse un fallimento, già il concept artistico è notevole. Sì, è notevole il personaggio, è notevole la scelta delle ambientazioni e soprattutto alcune scelte di gameplay che sono state commentate dai siti. Ci saranno, ad esempio, ci saranno delle modalità, la possibilità ad esempio di andare in una sorta di, come dire, modalità furia quando la vita sta per finire, che ci dà un certo tempo per uccidere tutti quanti i nemici e ci porta in un mondo in bianco e nero, insomma. Sono scelte un pochino che mi ricordano quei giochi, non so, i giochi ad action adventure classici, mi viene in mente serie di Prince of Persia, però devo dire non vediamo l'ora che esca, davvero. Spero abbiate l'occasione di provarlo, ne vale sicuramente la pena, è fra i più interessanti di questo periodo, seriamente. Perfetto. Rampage, prego. Sì, allora, siccome nell'ultima puntata avevo già anticipato qualche caratteristica del prossimo Mass Effect, mi sento in dovere, con mio sommo dispiacere, di informare i nostri ascoltatori che purtroppo l'uscita del suddetto gioco è stata rinviata dagli ultimi mesi del 2011 al primo trimestre del 2012. I motivi di tale rinvio sono stati in parte chiariti dal produttore esecutivo Casey Hudson, il quale ha appunto messo in evidenza il fatto che ancora il gioco non era pronto, che si vuole tendere a migliorarlo ancora di più, addirittura dice: vogliamo assicurarci che superi le aspettative di tutti i fan. In realtà più scene hot, diciamo. Ma sì, probabilmente, ma in realtà dietro c'è una ragione molto, molto, molto più pragmatica, se vogliamo, che è probabilmente la concorrenza dei titoli dei mesi che stanno arrivando, come Skyrim e Battlefield 3, che probabilmente ha un po' spaventato la casa produttrice, che quindi ha appunto preso questa scelta di rinvio, che però secondo me più che giovare a, visto che comunque si tratta di un gioco che già ha il suo cerchio di fan, ha peggiorato la situazione più che migliorarla. Non so, almeno per me che sono un fan di Mass Effect è piuttosto seccante sapere che ci vorranno ancora diversi mesi prima di avere questo sequel. Si chiama marketing questo, purtroppo si chiama. Lo so. Sì, ma anche inoltre per novembre 2011 sono poi previsti anche il nuovo Assassin's Creed Revelation, anche il nuovo Call of Duty, insomma si sa che a novembre ottobre di ogni anno ci sono sempre nuovi giochi, quindi questo si sa, però in particolare comunque scelte dettate dal marketing. Usciranno questi due giochi che ho detto prima e che probabilmente hanno spaventato un po' gli EA. Sì, in effetti io comunque la capisco. È una cosa comunque che stavo notando è che tutte le software house dei videogiochi si stanno gasando tantissimo, cioè fanno un gioco all'anno. Beh, dipende. Dipende, anzi, ecco, mi ricollego all'ultima nerd news mia. Ok, allora, che cosa è successo nel 1997? Quale gioco venne annunciato? che ne abbiamo già parlato prima. Il nostro preferito, dai. Diciamo che è un gioco amato e odiato. Cioè, non lo so, è un po' tutte e due. Boh, nel senso, si aspetta, ma sia per giocarlo che per sparare merda, probabilmente. Allora, stiamo parlando del grandissimo, aspettatissimo Duke Nukem Forever. Allora, Duke Nukem Forever, dopo aver cambiato tipo tre software house, allora è stato annunciato nel 97 da 3D Realms, in seguito è passato a 2K Games, che l'ha annunciato tipo almeno 4 volte, poi l'anno scorso 2K Games lascia praticamente tutto a Gearbox. Adesso Gearbox, quando ha ricevuto Duke Nukem Forever, ha detto: è un gioco quasi completo, siamo quasi pronti a farlo uscire tra poco, e l'ha detto più o meno verso febbraio dell'anno scorso. Fatto sta che ancora non è uscito, ma attenzione, attenzione, perché Gearbox ha annunciato una demo per il 3 giugno, cioè fra qualche giorno, una demo per il 3 giugno di Duke Nukem Forever. Ora, qualche giorno fa Steam aveva messo in preordine il Duke Nukem Forever e ovviamente, sapendo i trascorsi, non ci ho pensato neanche due secondi, cioè non mi è passata neanche per la testa l'idea di andare a preordinarlo, anche perché non ci tengo sinceramente, ma anche perché leggevo in giro che c'era un ragazzo che ordinò Duke Nukem Forever nel 2001 da GameStop e ancora lo sta aspettando, quindi sì, non so quanto ti convenga. Ancora è là. Beh, però è un gioco che si fa desiderare, con un trailer del genere, fra l'altro l'ultimo che è uscito, è difficile dire di no, eh. Poi allora, con una storia che ha dietro, perché comunque non è che stiamo parlando dell'ultimo gioco uscito. Allora, il problema è questo: nonostante Gearbox abbia annunciato questa demo per il 3 giugno, la demo sarà disponibile solo per chi ha fatto il preordine. È già qui la cosa un po' puzza un pochino. Comunque il gioco stesso dovrebbe uscire il 14 di giugno, quindi metà mese. E dovesse davvero uscire il 14 di giugno, io non lo so, io organizzerei tipo non lo so, una festa, una un boh, sì, farei una uno speciale di Nerdcast, che dire. È uno speciale. È uscito. Perché esattamente. È una cosa, ecco. Un po' per... cioè, era sia un rock and roll che una nerd news, questo, non sapevo. Già. Sì. Siamo lì. Va bene, abbiamo finito le nostre nerd news, andiamo col primo pezzo. Il primo pezzo scelto da Migo. Gli artisti sono giapponesi, gli artisti si chiamano The Creator Of, la canzone si chiama Acid e ci sentiamo fra pochissimo. We'll be right back. di Creator Off, la canzone si chiamava Acid, giapponesi da... Acid. Si chiamava Acid, punto interrogativo alla fine pure. Da Giamendo.com, ecco, ovviamente musica royalty free. Bene, sigla Nerd Talk. Nerd Talk. Bene, la nostra bellissima sigla Tamarra, però non ci piace così tanto che ce la teniamo. Ok, Nerd Talk, l'altra volta abbiamo parlato dei browser, questa volta parliamo praticamente dei, come possiamo definirli, dei videogiochi che sono stati più giocati, però attenzione, non quelli più venduti o quelli più famosi, quelli più giocati proprio che richiedono più ore di gioco, che sono diciamo quelli più addictive, diciamo. Ci basiamo su una classifica che abbiamo condiviso, diciamo, tutte e quattro di Den of Geek, che mette appunto 10 giochi tra i giochi più, appunto, quelli più addictive. Se non so se viene un sinonimo, aiutatemi. Droga, ecco. A sue facenti, ecco. Droga. Sì, esatto. Sì, diciamo quelli più anfetamine. Ecco, i giochi anfetamine, esattamente. MDMA. Vabbè, sì. I giochi dello spacciatore, diciamo. Che poi in effetti è anche così, ma ne parliamo probabilmente fra poco. Allora, sono 10 giochi i quali abbiamo in pratica smistato dalla posizione 10 alla prima noi, ad arbitrio, ma senza, insomma, senza niente su cui basarci, soltanto per avere una sorta di classifica. Quindi andremo a commentare tutti questi 10 giochi per capire in effetti se possono essere definiti MDMA, come dice il nostro caro Rampage, o c'è qualcosa di più oltre a questo. Direi di partire dalla posizione numero 10, che abbiamo dato appunto noi arbitrariamente, ripeto, dove abbiamo messo The Sims. Dunque, The Sims... allora, una piccola panoramica sul gioco. The Sims è questo simulatore di vita reale. Ha avuto un successo pazzesco. Ha venduto più di 100 milioni di copie dalla prima dal primo The Sims, che è uscito nel 2000. Continuano ad uscire The Sims. Ne abbiamo parlato pure prima di The Sims 3, un gioco di grandissimo successo. Ora, quanto è addictive in effetti questo gioco? Non lo so, voi siete dei The Simsari? Allora, The Sims era nella mia prima adolescenza forse uno dei giochi a cui ho giocato di più, ma perché è proprio un gioco che comprende un range di età che va dagli 11 ai 13 anni più o meno, e ai quali poi si rimane se sei un videogamer della domenica, nel senso, tipo, anche ci sono delle mie compagne di classe, sono persone che tu non te l'aspetti, così ogni tanto giocano a The Sims, per dirti. Sì, diciamo è un gioco addictive in quanto è molto semplice da capire, è molto al contempo vasto, nel senso che apre una quantità di libere strade e possibilità al giocatore, che è sempre una nuova esperienza creare una famiglia, insomma. E quindi i bambini, le bambine anche un po' più cresciute, si affissano a cambiare i jeans alla mamma, far fare lo spacciatore al padre, mandare i bambini a scuola col pulmino, insomma, queste cose simpatiche. Sì, diciamo, è un gioco molto casual. Ma comunque, cioè, di solito i giochi casual dai giocatori hardcore vengono snobbati. In realtà io conosco molti giocatori hardcore che giocavano e giocano a The Sims. Perché... Ma sì, per passare... Ma saranno gli sfigati madornali, però, insomma. Vabbè, sì, però, insomma... insomma, ecco. Ecco gli ascoltatori che se ne vanno. Ciao. Ciao ascoltatori. Vabbè. Diciamo che comunque The Sims è... Sicuramente è un gioco che ti macina ore senza che te ne accorgi, perché hai tante di quelle cose da fare che in pratica sostituisci la tua vita con quella dei Sims che ti crei. In pratica, nonostante questo poi generi polemiche, però non riprendiamo. Nona posizione, sempre arbitraria, The Legend of Zelda. Ora, The Legend of Zelda, insomma, non c'è bisogno di introdurlo. Ha venduto più di 50 milioni di copie, sì, fino, cioè, a partire già dal primo gioco The Legend of Zelda per il NES. Perché Addictive The Legend of Zelda? Allora, personalmente, io adoro in generale la saga. Io lo adoro tantissimo, mamma sì, mia, sì, bellissimo. In generale la saga di Legend of Zelda è pazzesca e stratosferica. E in più una delle cose che ho più apprezzato di solito dei Legend of Zelda, dei giochi di Zelda, è che sono delle avventure lunghe, ti prendono, che sembrano non finire mai. E la mole di segreti, di cose da sbloccare è praticamente infinita. Quindi è ovvio che sia sicuramente un gioco che macini, tra virgolette, le ore. Nel senso che, non so se è addictive, però sicuramente basta giocare un solo capitolo di qualunque Legend of Zelda per esserne innamorati, in pratica. Ma non è che dici, perché è proprio infinito come gioco Zelda, comunque, nel senso che non è che dici l'ho finito la campagna principale e mi dedico alle altre cose, no, è proprio che non finisce mai quel gioco. Sì, non è allucinante da questo punto di vista. Avrà una quantità di ore di gioco come pochi altri. No, e ma tra l'altro è anche molto in anticipo nel suo tempo, cioè per l'anno in cui effettivamente fu creato aveva una trama anche piuttosto complessa, perché a quei tempi le trame erano piuttosto in secondo piano, diciamo, come importanza nei giochi. Sì, ma infatti oltre ad avere una storyline molto lunga e molto coinvolgente, soprattutto perché è proprio bella la storia, correggetemi se sbaglio, ma è stato il primo uno dei primi almeno free roaming, penso, della storia, perché comunque se ci pensate in Zelda tu decidi quello che vuoi fare, vuoi proseguire con la storia, prosegui con la storia, vuoi cavalcare in giro e andare a caccia di fantasmi, ok, va benissimo, lo fai, vuoi fare le sfide, le sottosfide interne al gioco, hai una completa libertà di gioco, infatti. Sì, cioè pensando al primo Zelda, come ho detto prima, per NES dovrebbe essere stato 86-87, ora non mi ricordo bene l'anno. Però in effetti, come dici tu, è probabilmente stato il primo free roaming serio della storia dei videogiochi. Anche il primissimo Zelda, che nonostante fosse su NES, io l'ho rigiocato poco tempo fa ed è, io l'ho trovato anche attuale in un certo senso. Non è assolutamente vecchio, tra virgolette, è un gioco che ti prende anche adesso. Certo, sì, hai dei problemi. Figurati che io quest'estate mi sono messo a giocare a Zelda Majora's Mask, per dirti, quindi voglio dire, figurati. Sì, è un gioco anche bellissimo, soprattutto perché poi ti prende a quella trama che è veramente fantastica, è a livello superiore veramente. Trama, musica, personaggi, è pazzesco come il personaggio principale, cioè Link, non parli praticamente mai. Sì. Ma nonostante questo sia diventato un Mii, come Master Chief per Halo, pratica. È diventato un'icona Link. Io penso che si rientri tra quei personaggi dei videogiochi che ti rimangono nel cuore, insomma. Sì, assolutamente. Bene, Garriden, ma soprattutto quello che a me piaceva tanto di Zelda è che, oltre ad unire sì il fatto che si combatte, anche gli enigmi per andare avanti nel gioco, cioè per risolvere ad esempio i tempi bisognava sempre risolvere quegli enigmi che non sempre sono facili, soprattutto in Majora's Mask. Sì. Ok, Garriden, sei vivo? Sono qui, okay, non mi esprimo perché non so che ci sono dei giochi interessanti che stanno per arrivare, ecco. Ok, allora, ottava posizione, mi sa che te lo sei chiamato, StarCraft. Dannazione, è uno di loro. Prego, introduci un po' StarCraft. StarCraft. Perché è un gioco addictive, StarCraft? Se siete dei giocatori di RTS, insomma, avete giocato a giochi di strategia in un passato, lo ricorderete già da quando è uscito. Poi credo addirittura sia arrivato su una fascia di prezzo penosa per un periodo, quindi anche gente che non era di questo genere ha avuto StarCraft fra le mani. Se ci giocate, quello è veramente un gioco addictive, a mio parere. Ma perché, secondo te? Come, scusa? Perché è addictive? Perché addictive? È un gioco addictive a mio parere perché offre una quantità di scenari veramente incredibile. Certo, una persona potrebbe dire un RTS di per sé offre una quantità di scenari vasta, però StarCraft ha un certo dinamismo nel gioco, in particolare se ci giocate online comincia a diventare tragica la cosa. Insomma, io non sono un grande fan degli RTS, però StarCraft, cioè la mia copia di StarCraft ce l'ho. Le mie partite online me le sono fatte e sono state davvero divertenti, devo dire. Certo, allora, è uno di quei giochi dove si beccano le persone che ci hanno passato la vita e che ovviamente ti distruggono senza pietà sul multiplayer, però al di là di questo credo veramente sia un pezzo immancabile e credo che valga, insomma, credo sia degno di essere in quella lista. Che altro dire su StarCraft? Anche a me è piaciuto anche il seguito personalmente. Ad alcuni so che non è stato apprezzatissimo per alcuni fan del primo, però comunque nel complesso è stato un gioco anche giocato, credo, no? Non quanto il primo, ma giocato. Allora, volevo soltanto dire velocissimamente che StarCraft ha venduto più di 11 milioni di copie. Abbiamo parlato prima di The Sims e Zelda. Zelda aveva venduto circa 60 milioni, The Sims circa 100, StarCraft circa 11 milioni. Adesso sarebbe davvero una sorta di blasfemia dire che 11 milioni sono pochi, ma il fatto per cui StarCraft è davvero addictive è che una volta che sei nel mondo online, come dicevi tu, Non ne esci più. Io qualche tempo fa, qualche puntata di Nerdcast fa, avevo parlato di un documentario, mi pare che si chiamasse The Hack's Life. Sì. Che parlava della vita dei giocatori pro coreani di StarCraft. Io fino a quel momento credevo che i giocatori coreani, cioè, non esistessero veramente in quella maniera. Nel senso, i giocatori coreani sono una metafora per dire i giocatori super uber pro, i giocatori migliori del mondo, cioè quando si incontra qualcuno online che è particolarmente uber pro si dice ma sei un coreano. E diciamo che, ecco, io lo vorrei riproporre. The Hack's Life fa vedere la vita di dei giocatori di StarCraft più forti del mondo, cioè i coreani. La modalità multiplayer, cioè probabilmente il 50% della quantità addictive di StarCraft è formata da coreani. E non voglio essere non voglio essere tra virgolette razzista, perché non lo sono, però è così, cioè, nel senso, è come se in Corea la base di StarCraft fosse ai limiti proprio. È gigantesca, è grandissima. Per questo è un gioco addictive, perché una volta che ci entri, soprattutto se sei un coreano, diciamo. Che tra l'altro è molto vicino a Warcraft 3, tant'è che è l'altro gioco di cui si parla nello stesso documentario, come presa, diciamo. Andando avanti, ne abbiamo parlato prima, abbiamo Mass Effect. Allora, Mass Effect, bisogna dire una cosa, nella lista che abbiamo stilato, Mass Effect è quello più recente come gioco. Ed è uno dei più single player, va? Ed è anche più single player. Ed è anche più single player. E allora, se è single player è il più recente, com'è possibile, voi direte, che è tra i più addictive? Chi si vuole buttare? Io ho una mia idea, però la vorrei dire dopo. Mi butto io. No, vai là. No, Garriden me. Bravo. Beh, insomma, guarda, se... A me la cosa che mi ha colpito di Mass Effect era che era veramente immenso. Ecco, nel momento in cui aprivi la Galaxy Map ti rendevi conto che era un gioco veramente vasto. Io stesso, dopo averlo finito una volta, l'ho rigiocato altre due, l'ho trovato sempre ugualmente interessante, ugualmente divertente. Onestamente ho fatto quasi sempre le stesse scelte, quindi non è stato un gioco alla Witcher 2 dove ti propone di fare scelte diverse ogni volta. Le scelte erano quelle, però la rigiocabilità è stata incredibile e il tempo che ci ho perso è stato grave. Tra l'altro, mi ricordo, avevo anche impegni più impellenti, ma nonostante tutto continuo a giocare a Mass Effect, era terribile. Avevo gli esami di stato a giorni quando era uscito. E nonostante tutto continuo a giocarci, insomma. Pazzesco, sì. Credo sia veramente uno dei giochi pazzeschi, forse uno dei pochi, più di Mass Effect 2. Che ti tengono attaccati al computer, al di là dei multiplayer, logicamente, che creano un mondo, no? È e poi tu hai detto della mappa galattica. Nel secondo la mappa galattica è ancora più immensa. È ancora più ridicolmente grande. È pazzesco. È virtualmente infinito. Cioè non è infinito nel senso, però è davvero lunghissimo. Nel senso che, cioè in inglese si dice bang for your bucks. Nel senso, spendi 60 euro. Cioè un gioco normale circa costa 60 euro. Però quei 60 euro ti valgono ore e ore di gioco, come un Fallout. Cioè, ok, li spendi quei soldi, come li spenderesti? Più di Fallout, forse, Mass Effect. Credo sì, sì. In effetti, bah, diciamo di sì. Però è un affare in un certo senso. Cioè, ti invoglia ancora di più a comprarlo, nel senso che sai che ti durerà tantissimo. È questo il discorso che faccio anch'io. E poi Mass Effect ha questo merito di non avere venduto tantissimo come hanno fatto magari i giochi di cui abbiamo parlato, di cui parleremo, ma è comunque riuscito a dare una spinta, a fare una fusione tra gli elementi classici degli RPG e dell'action, e a fare un gioco lungo. Cioè davvero un mix. Sì. È un mix quasi perfetto, diciamo. Assolutamente. Sì, è un mix perfetto, praticamente. Ma io direi anche che il fatto che non abbia venduto tutte le copie dei giochi che ancora dobbiamo nominare, probabilmente, è dovuto al fatto che comunque non è un gioco semplice. Cioè, non è proprio un gioco da qualsiasi videogamer, nel senso che, come dire, ha uno stile, ha una costruzione che piace soltanto a quei videogamer appassionati comunque molto di narrativa. Cioè, nel senso, se io sono un videogamer che cerca soltanto la bellezza degli scontri a fuoco, ok? I Mass Effect alla fine sono abbastanza monotoni, no? Perché alla fine sì, cambiano un po' i posti, però alla fine la struttura dei combattimenti è sempre la stessa, più o meno. Considerando anche che Quindi, sono bellini, sì, però ok, non è quello il centro. Invece se uno guarda proprio alla psicologia dei personaggi, alla possibilità dei rapporti che puoi instaurarci, alla ricerca, perché ogni pianeta che vai gente nuova trovi, insomma, e con gente nuova parli, e tutti hanno dei background molto ben definiti, quindi è un piccolo gioiellino di videogioco Mass Effect. Sì, sì. Cioè è veramente un piccolo capolavoro. Va bene, muoviamoci che stiamo sforando. Sesta posizione, Final Fantasy, ecco. E questo doveva capitare. Allora, Final Fantasy è una saga che non ha bisogno ovviamente di presentazioni, proprio nel modo più assoluto. Ha venduto fino ad ora più di 85 milioni di copie. Allora, sembra quasi una presa in giro chiedersi perché Final Fantasy è addictive. Allora, vi parlo io che ho finito tutti i Final Fantasy che sono usciti, tranne qualcuno per PSP e console portatili. Che solo per nominare tutti i titoli ci vogliono 18 ore di gioco. Esatto. No, allora, Final Fantasy è, secondo me, è sì, sicuramente è più immenso e più longevo di tutti gli altri giochi che abbiamo detto fino ad ora. Però bisogna fare delle distinzioni, perché ovviamente ci sono dei Final Fantasy che durano di più, dei Final Fantasy che durano di meno. Per esempio, io ho trovato incredibile che l'ultimo Final Fantasy, Final Fantasy 13, durasse, solo la campagna single player durasse 45 ore di gioco continuo, nel senso di trama continua. E io questa cosa probabilmente non l'ho vista da nessun'altra parte, nel senso che non lo so, come fai anche solo a concepire un gioco che ti duri 50 ore continue senza praticamente o quasi mai sforando in side quest. Tutti quanti i giochi promettono anche più di queste ore, però le ore effettive Final Fantasy le dà sempre, è pazzesco. Ma poi la cosa che non ho mai capito di Final Fantasy, che comunque vabbè è comunque una caratteristica distintiva, e che arrivato al benedettissimo boss finale sei praticamente una formica rispetto al boss finale. Quindi arrivato al boss finale devi fare almeno altre 30 ore di farming, dopo ritorni e speri di poter fare qualcosa. Io mi ricordo il primissimo Final Fantasy che ho finito e giocato, cioè il grandissimo Final Fantasy 7, arrivato a Sephiroth, cioè non c'è stata storia, ma nel modo più assoluto. Ho dovuto farmi Gold Chocobo, evocazioni, livelli. È stato un bordello e ci ho perso almeno altre 10-15 ore a fare questo. Per sconfiggere il gioco più interessante. Sì, è pazzesco. E poi uno si chiede perché Final Fantasy è addictive. Ma non è che è addictive Final Fantasy, è che non ti dà neanche il tempo di andare a girare, che subito ti propone qualcosa, un'altra missione. E comunque, finita la parte principale, che può durare, che ne so, 25, 30, 50 ore, ci sono un quantitativo di side quest. Beh, cioè, insomma, Final Fantasy è un gioco che si introduce un po' da solo per quando si parla di addictive games. Quindi, diciamo che oltre questo non lo so. Avete qualcosa da dire oppure continuiamo? Perché continuiamo. No, diamine, giocate a Final Fantasy, questo sì, c'è da dire. Capirete il vero senso di addictive in single player. E questo è il bello, in single player. Diciamo è un World of Warcraft in single player. Quinta posizione. Che poi ci arriviamo a quello, vai avanti. Sì, vabbè, con calma. Quinta posizione abbiamo, incredibilmente ragazzi, abbiamo Farmville. Un gioco sviluppato, disponibile solo, non so se solo su Facebook, ma comunque giocato soprattutto su Facebook. Ha delle statistiche impressionanti. Sono 13.400.000 gli utilizzatori giornalieri e 82,7 milioni di utenti attivi al mese. È una cosa impressionante. Cioè questa forse sfora, non so se sfora World of Warcraft o Call of Duty, non lo so, però è impressionante. Cioè io personalmente non ho mai giocato, cioè ce l'ho provato Farmville, ma non è stato mai qualcosa di totalmente addictive. Però insomma, cioè questo dimostra come per fare un gioco di successo è veramente addictive, basta proporre idee semplici, perché alla fine Farmville consiste nel, è una cazzata. Nel crearti il praterello e le coltivazioni, eccetera. Questa storia mi ricorda O Game, non so se ricorderete il periodo di O Game. Oh mio Dio, che cosa hai nominato? Dovevi dire proprio quella cosa, dovevi dire. Non dire mai più quel nome. Mamma mia. Luca è appena uscito da una clinica di riabilitazione. Se ci penso, vedo ancora le mie navi colonie che si spostano di 6 galassie ogni notte e io alle 6 di mattina le vado a controllare nella speranza che non abbiano attaccato il pianeta madre. Questo è quello che si dice un gioco addictive, vero? Sì, quello sì che è addictive. Abbiamo sbagliato a non mettere O-Game, in effetti. In effetti avremmo potuto parlarne, ma possiamo anche parlarne, sì, O-Game. Sì. No, ecco. No, forse meglio no. Ah, scusatemi, di Farmville chi vuole dire qualcosa? Io non so. Io volevo dire che secondo me quello che fondamentalmente gli ha fatto fare successo è appunto che è una cazzata. Cioè, tu sei lì mentre chatti con i tuoi amici su Facebook, mentre passi il tempo prendendo lì i limoni, coltivando lattughe, facendo quello e quell'altro. Insomma, si passa il tempo mentre al contempo chatti, stai su Facebook. Quindi è una cosa che non richiede assolutamente nessuna abilità. Diverte anche, passi il tempo, sì, insomma, è fondamentalmente. È l'esempio di come fare successo con delle idee messe al posto giusto. Cioè, ma se ne potrebbero fare tanti di esempi, da quando è approdato nel mondo della tecnologia l'iPod e l'Apple Store se ne sono viste di cose. Sì, ti sì, posso sì, parlare ma di lascio un, perché entriamo un ragazzo in, entriamo che in discorso all'inizio, troppo, proprio nei primi tempi dell'Apple Store, aveva ideato un programmino che si chiamava Gioco per Ricchi. Proprio il titolo era Gioco per Ricchi. Era un gioco che funzionava, cioè che gioco, non era neanche un gioco, che costava tipo da scaricare 350 euro, una cosa del genere. E tu lo scaricavi se eri un ricco E praticamente consisteva nel mostrarti una serie di immagini di prodotti che costano un sacco, tipo anelli, macchine, cose. Quindi c'erano questi pazzi maniaci che si sono scaricati in tanti, fra l'altro, perché lui ha fatto un sacco di soldi prima che l'Apple Store gli bloccasse questa iniziativa. Cioè, loro se lo scaricavano e poi si guardavano l'ultima Maserati assieme all'anello di Bulgari, al Rolex, quindi per dirti. Vabbè. Allora, io direi di saltare anche O-Game, perché qua abbiamo altri 4 giochi potenti. Quarta posizione abbiamo Pokémon. Ora, ok, i Pokémon. Chi ha giocato? Chi ha giocato i Pokémon? Almeno una volta. Io. Chi non l'ha giocato, anzi? Mi sa Dario, hai giocato Pokémon? Diamine, ne ho giocato una quantità spaventosa. Davvero, Pokémon? Ehi! Sì, però tutti su emulatore, da chiarire. Vabbè, ma comunque li hai giocati, voglio dire. Un po' di scena. Io me ne tiro fuori. Rampage, ne hai giocati Pokémon? No. Come no? Oddio, buttati Rampage, buttati fuori da questo Pokémon. Lo so. Aspetta, voglio rimimare una frase tipica di un paio di persone alla quale ho mostrato Final Fantasy, che mi dissero: caspita, ha rubato il sistema di combattimento da Pokémon. questo mi fece capire un pochino quanta gente giocava a Pokémon e quanta a Final Fantasy, almeno in Italia. Allora, le statistiche di Pokémon sono impressionanti. Ha venduto oltre 190 milioni di copie, tutti i giochi di Pokémon messi assieme. E insomma, c'è un francobollo dedicato a Pikachu in Giappone. Quindi prendetevi conto, i soliti francobolli vengono dedicati, che ne so, ai letterati, agli scienziati, a monumenti. E hanno dedicato a Pikachu un francobollo in Giappone. Per farvi capire un po' com'è messa la cosa. Vabbè, ma quello è il Giappone, cioè, okay. Stiamo parlando del posto dove hanno rifatto la Torre Eiffel con i brillantini, cioè. Vabbè, ma lasciamo perdere. Ciao ascoltatori giapponesi, è stato bello avervi qui, ciao. Allora, tra l'altro, se ascolti questo programma sei un giapponerd, insomma. Allora, Pokémon, per quanto riguarda me, Pokémon è stato probabilmente il gioco più addictive di tutti per me, più di Final Fantasy anche. E non solo il gioco videogioco, anche il gioco di carte, il cartone, il manga. È stato davvero, è stato impressionante. Non riuscivo a uscire. E mi piaceva tantissimo. Io ricordo, proprio mi prendeva emotivamente. Come mi ha preso emotivamente Pokémon? Probabilmente non mi ha preso emotivamente nessun altro gioco, perché mi ricordo quelle ore proprio spese, buttate a Pokémon, a livellare, a catturare, a trasferire. È stato pazzesco, cioè, secondo me è probabilmente uno di quelli che merita di più di stare in questa classifica. Cioè, come addictive Pokémon sono stati addictive davvero pochi. Poi ad un certo punto, almeno per quanto mi riguarda, è sparito tutto. Cioè, ormai non ci giocherei più a Pokémon. Però ricordo quei tempi come davvero entusiasmanti. Cioè, è stato... Sì. È stato pazzesco. Non riuscivo a staccarmene. Era una droga, era proprio una droga. E ho sentito delle teorie, tantissime teorie in merito, che Pokémon facesse male alla salute, che Pokémon attirasse le persone perché c'erano tipo delle colorazioni strane nei videogiochi, cose del genere, proprio stupide. Perché proprio cioè, probabilmente è il brand più famoso di carte, di forse non saprei di anime, di manga. Però i personaggi dei Pokémon vengono riconosciuti da tutti. Cioè, nel senso, Pikachu, d'accordo, Pikachu, lo conoscono pure le madri. Capito? E questa è la cosa pazzesca. Cioè, nonostante i giochi di Pokémon, diciamocelo, siano quasi tutti uguali ormai, perché è inutile stare qua, Pokémon nero e bianco possono essere diversi quanto volete, però sono comunque uguali come meccaniche, quindi è quello. Vabbè, che è un po' se il gioco è quello, di base è quello, insomma. Diciamolo che è un po' stufa, così. Però è pazzesco che una volta che ci entri non esci più. È pazzesco, davvero è stato probabilmente il mio personalissimo gioco addictive di sempre. Voi siete stati addictivati pure da Pokémon? Da Pokémon? Sì, io... Vabbè, cosa, guarda, cosa, figurati cosa che due estati fa, nonostante l'era Pokémon mia sia finita ormai da tempo, però due estati fa, quando andai al mare da mio cugino, aveva il DS con l'ultima versione di Pokémon al tempo, mamma, a nerdare pomeriggi interi dopo mangiato prima di aspettare per il bagno. Io ricordo più che altro la ricerca incredibile, difficilissima e per me mai riuscita, di Missing No. Oddio, sarebbe... apriamo una parentesi qua. Al tempo, perché ero abbastanza piccolo, ma era Missing Number, suppongo. Sì, oddio, mamma mia, che cosa mi hai ricordato. Ci sono delle teorie che non stiamo a ripetere, perché sennò sforiamo davvero tantissimo. Andiamo avanti, yeah. Terza posizione, Counter-Strike Source, diciamo. E si risveglia. Allora, Counter-Strike ha venduto 4 milioni di copie fino ad ora, però probabilmente sono anche gente più... come Luken, principalmente. Sì, 4 milioni, tra le quali 2 milioni solo per Rampage. Io l'ho scaricato da solo 2 milioni di volte, sì. Sì, però diciamo che probabilmente sono anche di più, perché Counter-Strike su Steam è venduto in tante offerte. Quindi secondo me sono anche di più. 4 milioni per Counter-Strike mi sembrano, tra virgolette, pochi. Più le craccate, non ne parliamo proprio. Ah vabbè, sì, le craccate. Ma sì, ma non stiamo considerando le craccate. Le craccate la lasciamo perdere, proprio è... Già se solo consideriamo quelle di Pokémon... Quelle ROM a ruba andavano, mamma mia. Però io chi cracca Counter-Strike lo considero un vero fuorilegge, però. Allora, Counter-Strike Source. Perché è addictive questo gioco, Rampage? Allora, è addictive perché è l'FPS meglio riuscito nella storia del videogaming. Fra l'altro molto prima comunque che gli FPS cominciassero a definirsi per bene. Fra l'altro, infatti, prima parlandone, no, ci sembrava che fosse proprio, se non il primo, non Source, però quello che c'era prima, insomma, comunque uno dei primi. E ancora oggi, per alcune meccaniche, rimane effettivamente il più utilizzabile, perché è un gioco veramente perfetto. Non c'è lag, i ritardi sono minimizzati al massimo, le armi sono ben costruite, il realismo c'è. E poi è un gioco di sola skill, cioè nel senso, se sei un videogamer a cui piace mettersi alla prova, ti metti dentro Counter-Strike Source e ne avrai per sempre, perché anche i giocatori più forti comunque non sono, cioè si perdono contro gli altri, perché è un gioco che c'era talmente tanto tempo che ognuno ha sviluppato delle tattiche. Anche l'altra volta, fra l'altro, leggevo un articolo, non ricordo su quale sito, in cui parlavano proprio del fatto che Counter Strike si sia sviluppato in modi diversi in ogni nazione, e che in ogni nazione ci fosse una tattica peculiare. Vabbè, ovviamente no, prendiamo l'esempio degli italiani, che sono quelli che flashano di più in tutto Counter Strike, no, per dire. Ma tanti esempi di questo tipo, insomma. Quindi è un gioco veramente che dal quale non ne esci, perché non ti senti mai veramente arrivato a un livello di skill tale da poterti considerare pro, forse. Io aggiungerei pure questo, con StarCraft, Counter-Strike Source è un gioco che diventa ancora più addictive grazie a strumenti come TeamSpeak, come Rumble. Insomma, ma ovviamente lì dietro si crea la realtà degli FPS, del team play, insomma, e poi uno si crea un'altra vita, non come The Sims, ma con persone che gli parlano davvero, insomma. Sì, sì, assolutamente. Ovviamente Counter-Strike è anche addictive perché Valve, casa produttrice del gioco, ci tiene in modo continuo. Diciamo che non utilizza la tecnica di Call of Duty, di far uscire un Call of Duty ogni anno, ogni due anni. Counter-Strike Source è quello, da anni ormai. Gli aggiornamenti ci sono, e secondo me è anche un punto a favore, nel senso che comunque non bisogna sempre cambiare ogni volta server e gioco. Il gioco è quello, entri e lo giochi. Stessa cosa anche per Team Fortress 2, che non è in questa classifica, però è mantenuto molto bene, parlando dell'online da Valve, che secondo me fa un lavoro migliore rispetto a quello che magari è fatto su Call of Duty o Battlefield per quanto riguarda l'online, almeno su PC ovviamente. Perché ricordiamo una cosa, noi tendiamo a compararlo con altri FPS come appunto, ripeto, Call of Duty, Battlefield. Però Counter-Strike Source è sempre stato l'FPS per eccellenza per il PC, perché è solo disponibile sul PC. Fosse stato disponibile su console, magari la storia sarebbe stata diversa. Però Counter-Strike su console è un'utopia, quindi lasciamo perdere. Andando no, è irrealizzabile secondo me. No, è impossibile. Morta, vuole... giusto per sparare due opinioni a voi su Counter-Strike. Su esperienza personale ne ho avuto tre copie fra le mani, in quanto ho perso due account Steam, ma nonostante tutto ho ricomprato sempre Counter-Strike, cosa che dimostra che effettivamente è addictive, nonostante io non ci giochi tutti i giorni, certo. E al di là di questo, volevo dire che insomma si basa su, anche su un gioco di suo pazzesco, che era Half-Life al tempo, no? Quindi godeva delle meccaniche di gioco migliori in assoluto, forse. Cioè al tempo Half-Life, i veri gamer giocavano Half-Life nel single player, e nel multiplayer Half-Life non ha avuto fortuna, ma Counter-Strike offriva l'alternativa perfetta. Quindi a mio parere esce da una scuola leggermente migliore di quella di Call of Duty. Call of Duty esce dalla scuola di Quake, no? Se non erro, non vorrei sbagliarmi, Call of Duty 1 era basato su Quake 3 come engine, non lo so, quindi aveva delle dinamiche di gioco molto più veloci di quelle di Counter-Strike. Counter-Strike è un gioco ponderato, Counter-Strike è un gioco da gamer vecchio stile. Anche Source, che è stato più giocato in assoluto davvero, è sempre su quello stampo molto classico, pochi gingilli e tanti fatti, ecco. È molta, molta tattica, cioè la strategia in Counter-Strike Source è veramente fondamentale, nel senso che non si può giocare, cioè non è un gioco semplice in cui entrarci. Infatti i videogamer di Counter-Strike, secondo me, più che entrarci di nuovi in queste nuove generazioni, ci sono già da parecchio tempo a ristagnarci dentro. Ok ragazzi, continuiamo, andiamo velocissimi. Seconda posizione. Comunque è confermato che Call of Duty è basato su Quake 3. Ok. E appunto, seconda posizione, Call of Duty. Call of Duty, serie ultra milionaria, 55 milioni di copie vendute fino ad ora. Tutta la serie Call of Duty ovviamente. È stato annunciato da poco, non proprio da pochissimo, però è stato annunciato un nuovo Call of Duty, pare si chiami Modern Warfare 3. Modern Warfare 3. Modern Warfare 3. E appunto, Call of Duty è addictive, un po' è un FPS, ovviamente probabilmente è il più grande competitor di Counter-Strike Source, diciamo, se la battono tra di loro. Però online, diciamo che Call of Duty ha, non lo so, cosa di più Call of Duty di Counter-Strike Source? Beh, tanto. Io direi questo, prima cosa di tutto, come detto prima, Call of Duty è sparpagliato per console e non solo PC, quindi è sicuramente più fruibile da tutti. In più, che cosa è che rende Call of Duty addictive? Il fatto, secondo me, a dispetto di Counter-Strike Source, che ci sono delle ricompense in più. Secondo me la chiave perché un gioco sia addictive è farti proseguire nel gioco, cioè darti dei premi, darti delle cose che ti invogliano a continuare, perché tu possa diventare più potente, possa diventare più rispettato, più forte. Questo in generale la... Più rispettato, bellissimo. Sì, più rispettato. E questo in generale, secondo me, è quello che rende un gioco una droga, secondo me. Quello di darti dei premi. Counter-Strike Source non te ne dà. Questo, secondo me, è la pecca che lo fa perdere, in un certo senso, con Call of Duty rispetto ai giocatori in generale. Diciamo che lo rende delizio per gente che esatto, non è che lo fa perdere. Ma Counter-Strike è più per i giocatori hardcore. Esatto. Diciamo la verità. È per chi l'FPS lo vuole giocare. È un po' il Linux degli FPS, diciamo. Ma neanche lì, è veramente un'area necessaria su cui approdare se ti vuoi ritenere un FPS raro. Cioè anche io, tipo quando giocavo, che ne so, a COD Online o a Warrock, insomma, cioè quelli bravi a un certo punto dicevano: beh, andiamo a skillarci, scarichiamoci Counter Strike. Cioè capisci qual è il punto? Sì. Volevi dire compriamo Counter Strike, giusto? Ma si scarica comunque. Vabbè, ma tu pensi solo a Steam, io l'ho comprato, c'ho lì la custodia. Allora... Ah no, io penso a Steam, lo individuo lì. Allora, Call of Duty ti fa comprare armi, ti permette di modificare il tuo personaggio rispetto, diciamo, alle armi in più che puoi utilizzare, sali di livello, diciamo che ci sono tante cose che rendono in un certo senso Call of Duty più addictive e quindi più giocato. Poi una cosa pazzesca di Call of Duty, a parte che, come detto prima, una cosa che non concepisco è perché esce un Call of Duty ogni anno diverso. Io credo di avere un'idea. Come detto prima, neanche nel mondo dei videogiochi ci sono delle mosse di marketing abbastanza bastarde, diciamo. Nel senso che si sa che Call of Duty vende tantissimo. Facciamo uscire un altro titolo di Call of Duty. Tanto ai titoli di prima continuano a giocarci. Infatti i Call of Duty più giocati sono ancora Call of Duty 4 e Call of Duty 2 ancora. E Call of Duty Black Ops, se non sbaglio, è stato il gioco più venduto in America, in Nord America, più venduto di tutti i tempi, più di Super Mario. È una cosa impressionante. E probabilmente, guarda, io non lo so, io non conosco così tanti giocatori che vedono in Call of Duty diciamo il messia. Sinceramente non li conosco così tanti. Però quei pochi che conosco praticamente spendono la loro vita su Call of Duty, perché è così, perché purtroppo o per fortuna è l'FPS meglio fatto online, è più aperto per tutti quanti. Cioè è così, è il gioco aperto per tutti quanti, per tutti quelli che vogliono giocare un FPS. Mi dispiace per Battlefield, mi dispiace per Counter Strike, ma c'è Call of Duty prima di questi. Sì, ma poi c'è quello sconto. Scusami. No, dicevo, io dico di Black Ops ho anche apprezzato particolarmente la trama in single player comunque. Ah, sì. E secondo me anche il fatto del single player dà anche di più rispetto anche a Counter-Strike, perché sappiamo che Counter-Strike è solo online, mentre i Call of Duty hanno anche la loro trama in single player. E quella di Black Ops io l'ho particolarmente apprezzata. Quella di Modern Warfare 2 sinceramente no, perché voglio dire, era una serie di quest così, ok, ma nulla. Insomma, bisogna dire che questi giochi non possono avere una trama, eh? Cioè insomma, no, devi apprezzare che tutte le ambientazioni di Call of Duty sono bestiali, davvero progettate bestialmente. Le scene, vi basti pensare Modern Warfare 1 o Call of Duty 2, ci sono dei tratti di guerra veramente presi bene. No, ma infatti proprio per, come hai detto tu, non possono avere una trama. Black Ops invece ha una specie di filo conduttore, diciamo, ha un qualcosa che ti prende nella storia, invece di essere solo missioni vai e spara in giro. Ah, sì, invece hanno seguito un filo. Mi ricordo altri giochi di guerra un po' più vecchi che seguivano una trama. È interessante, insomma, è una scelta, sì, è assolutamente una scelta. Chi si affaccia sul mondo degli FPS vede in Counter Strike o in Battlefield o in Call of Duty il suo gioco. Poi dipende, purtroppo. Che sono le tre grandi scuole di pensiero. Sì, diciamo che sono le tre grandi scuole di pensiero. C'è chi le vede tutte e tre uguali, per dirvi. Però... No, aspetta, tra COD e BF c'è sempre stata una certa rivalità, eh. Sì, questo è vero. Diciamo che StarCraft, Counter Strike ha sempre avuto la sua nicchia, diciamo. Ma basta, passiamo ad altri giochi, dai. Passiamo all'ultimo. Qual è l'ultimo? Non lo dire. Il rivale di tutti. Il nostro gioco più addictive all'unanimità. Non poteva che essere World of Warcraft. Olè! World of Warcraft. Olè! World of Warcraft uscito. Il primissimo World of Warcraft uscito. Nel 2004. Sì, 2004. Sì. 2004, al momento conta più di 12 milioni di iscritti, più di 12 milioni di iscritti, non i 12 milioni di copie. Ma su World of Warcraft bisognerebbe fare un discorso a parte per le copie piratate, perché c'è un sui server privati perché sono veramente tanti, troppi. Sì, cioè, no, sicuramente i server privati sono di più di quelli ufficiali, questo è sicuro. Ma soprattutto la quantità di giocatori è anche cospicua su questi shard, non sono pochi. Sono un paio immensi, effettivamente. Sì. Chi? Dove? Diciamo questo, per farvi capire proprio la potenza di World of Warcraft. Qualunque altro gioco, un MMORPG online dopo World of Warcraft è andato verso il fallimento o sta andando verso il fallimento. È sicuramente così, perché World of Warcraft è il gioco perfetto per chi ama gli RPG, sì. Mettiamoci anche il mondo fantasy, eccetera. Però non si può battere, è imbattibile. Ormai, se qualcuno vuole, se una casa produttrice vuole fare un tipo, una tipologia di gioco, deve abbandonare a priori, secondo me, la scelta di farlo un MMORPG. Perché, no, è fatto troppo superiore. Perché viene surclassata da World of Warcraft e non c'è niente da fare. Cioè, scusatemi, io credo che degli altri 9 giochi di cui abbiamo parlato adesso, qualcuno ci ha giocato, qualcun altro no. Nel senso che non tutti e 4 avevano giocato ai 9 giochi contemporaneamente. A World of Warcraft ci abbiamo giocato tutti e 4, questo è sicuro. E anche in maniera abbastanza pesante, io oserei dire. Già, decisamente. Allora, cioè io ho fatto Mithrellas. Mithrellas era il personaggio di Garriden. È durato poco. E in pratica io ho fatto 24 ore di gioco continue senza andare a dormire su World of Warcraft. Non è successo da nessun'altra parte. È stato pazzesco. Io non le ho sentite neanche troppo le 24 ore. Ma sì, è il gioco più addictive di tutti. Non mi puoi dire niente. Puoi parlare di Pokémon, puoi parlare di Counter Strike, Farmville, Final Fantasy, quello che vuoi. Prima o poi di questi giochi ti stancherai. Di World of Warcraft l'unica maniera per finire, diciamo, la droga di World of Warcraft è che te lo caccino delle brutalmente delle situazioni. Cioè io devo ringraziare i miei esami di stato se non gioco a World of Warcraft. Perché sennò sarebbe stata la fine, sennò sarebbe stata la morte, ecco, di ogni tipo di vita sociale. Ma ecco, diciamo una cosa, io voglio dire solo quest'ultimissima cosa su World of Warcraft, poi lascio la parola a voi. Vita sociale, non è vero che si perde vita sociale già stando su World of Warcraft. Una delle facoltà più addictive di World of Warcraft, secondo me, è stare a contatto con tantissime persone, giocatori. Il fattore TS, il fattore Mumble che dicevo prima, è questo, cioè è farti stare comunque collegato, ok, puoi dire non hai vita sociale, eccetera, però conosci tantissime persone, anche se virtualmente, si sviluppano, so che può sembrare strano, però si sviluppano proprio delle amicizie vere e proprie, no? Si sviluppano delle amicizie vere e proprie online, grazie a giochi come questo, e per questo è tante cose che lo rendono addictive, ed è incredibile il fatto che la grafica stessa non sia la grafica, che ne so, di Crysis 2, non sia la grafica di un Mass Effect. È una grafica molto basilare, dunque è anche accessibile. Questo è una per fortuna, perché comunque è una grafica piacevole da per starci molto tempo, perché le grafiche pesanti, vedi che starci più ore è difficile comunque, secondo me. È un gioco, sì, è un gioco perfetto. Praticamente ha tutto quello che ha per essere una droga. Quindi io vi dico, personalmente, non vi dirò andateci a giocare, io dico non giocateci. Fate prima, non giocateci, perché è troppo fatto bene, non giocateci, fate prima. È troppo, è veramente spettacolare, perché ha tutto, cioè voglio dire, è veramente, cioè, troppo bello, e poi è organizzato benissimo. Comunque, proprio per quello che dicevi tu, su una seconda vita sociale, appunto, la nostra vecchia gilda, ragazzi, vi ricordate ogni anno tutta la gilda, o quasi tutti, si riuniva al coso, a Lucca Comics, poi d'estate spesso vanno al mare. Sempre passi insieme. Molto poco nerd. Sì, tra l'altro. Ma poi anche una cosa che ricordo è che c'erano due gildani, no? Il vice capo e un altro officer che andavano all'università, volevano andare tutti e due a Roma e si sono presi la casa insieme, per dire, no? Che appunto il lato social si sviluppa veramente tantissimo su videogiochi come questi. E beh, che dire, del gioco in sé non penso che tutti quanti lo conoscono, comunque cioè, non hanno bisogno dei nostri elogi, insomma, voglio dire, è perfetto. Io comunque qualche critica ce l'avrei. Non è facile parlare. Figuriamoci se il Garriden... Guarda che non è della Apple, eh? No, senza dubbio non lo è. No, più che altro io ci ho giocato per un certo periodo, no? Al di là del fatto che giocare sui shard è veramente limitante, veramente si perde una parte del gioco, a mio parere. No, è un altro gioco, il gioco sullo shard. Parliamo di server ufficiali. Io non ce l'ho tanto con World of Warcraft, ce l'ho con gli MMORPG in generale. Perché? Perché sono... offrono alcune cose, probabilmente proprio perché online, offrono molte cose in meno rispetto a un RPG di norma. E questa cosa un pochino mi snerva, è assurda. Offrono... ecco, sono un pochino troppo dispersivi. O talvolta sono troppo dispersivi, talvolta si limitano al semplice co-op. Dario, Garriden, scusami. Che sì. Livello eri arrivato tu? Beh, sono arrivato un 30, non di più. So che partono poi delle quest interessanti arrivati a livelli, soprattutto ho giocato anche quelli autolivellati, no? Dove parti da un livello dove già ti stai divertendo, però al di là di questo... Non è la stessa cosa. Non è la stessa... Vabbè, insomma, parlo con dei gamer di World of Warcraft, andate a cagare. In effetti, guarda, stava per partire un merdone pazzesco, ma lasciamo perdere. Quindi... sì, no, non si può parlare con voi. Tornate a giocare con le bambole. È come avere un fanboy della Apple. Esatto. Ragazzi, World of Warcraft potremmo parlarne per episodi ed episodi. Noi diciamo solo questo: non giocateci. Gli dedicheremo una puntata. Dai. Non giocateci, per favore. È un piacere, è un favore che fate a noi. Non giocateci. E fate anche a voi. Non giocateci. Fate prima. Bene, altro da aggiungere o passiamo ai rock and roll sia. Let's plug it in. It's gonna say, hey, I see you plugged in a new device, and it's gonna load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build, whoa. Moving right along. That must be why we're not shipping Windows 98. Absolutely, yet. Absolutely. Bene, Rock and Roll, cerchiamo di andare veloci. La bellissima sigla che ci fa ridere tutti quanti ogni volta. Adorabilissima. Bellissima, la presentazione di Windows 98 o 95, non mi pare 98. Ok. 98, 98. Sì, 98. Andiamo veloci perché la parte è più difficile, diciamo, che è passata. Rock and Roll, chi parte? Parte Garriden? Ma sì, dai, mi brucio come al solito per primo, anche perché porto un Rock and Roll davvero breve, con una semplice immagine da commentare. Girando sul web, ho trovato questa immagine su un blog e mi ha davvero strappato una risata. C'è un piccolo post su questo blog dove appunto c'è una foto di una piccola carta con uno scontrino accanto di GameStop. Ne abbiamo già parlato in questa serata, è stato accennato prima. È davvero ridicolo perché c'è un utente che si chiama Slash Free Zeros, c'è scritto Slash Free Zeros is a patient man, perché si tratta di uno scontrino di GameStop su un preordine di Duke Nukem Forever, di quelli che non arriveranno mai. Lo stesso davvero. Che parlava Malloman prima, mi sa. Sì, infatti, sì, sì. È stato davvero pazzesco perché, tra l'altro, scritto ricevuta, c'è proprio la ricevuta stampata, c'è lo scontrino di GameStop ingiallito che ha visto davvero tanto tempo davanti a sé. Che Mamma dire, me. Fra un po' Slash Free Zero sarà felice, fino ad adesso finisce nel Rock and Roll. Ecco, ma glielo appunto. Daranno probabilmente, dai, glielo daranno alla fine studio, benedetto di... forse pure gratis. Malloman, prego. Malloman, ci siamo? Sì, allora, beh, io nulla, presento le domande più bizzarre, no, dei, di Yahoo Answer, e abbiamo allegato il video che potete trovare sul blog. Non anticipo nulla, consiglio semplicemente di andare a vederlo e farvi veramente grosse risate. Citane qualcuna oppure andiamo avanti? Ma guarda, se posso citarne qualcuna, quella che io veramente mi è piaciuta tantissimo, che metterei in prima posizione nel video e in seconda, è: cosa succede se legassi una fetta biscottata alla schiena di un gatto? Perché i gatti cadono sempre in piedi, le fette biscottate per la legge di Murphy cadono sempre dalla parte della marmellata, quindi decidete voi. E quindi cosa succede? Oh mio Dio! E beh, i cosi, le risposte sono le più assurde. Chi ipotizza l'antigravità, chi il moto perpetuo, chi quello, è bellissimo, veramente stupendo. Vado io. Allora, Portal 2, il co-op di Portal 2. Ovviamente un modalità co-op, cioè cooperativa di un gioco, ci si aspetta che possa essere conclusa in due e basta, cioè a forza in due, in uno non si può concludere. Invece, proprio dopo averlo finito, dopo che io stesso l'ho finito, mi trovo questo bellissimo video di tale Goknak su YouTube, che finisce Portal 2 in cooperativa da solo. Com'è possibile? È proprio tutto il walkthrough del cooperativo. Lo postiamo pure questo sul blog. E insomma, che devo dire, mi ha fatto incazzare, perché io sono stato due settimane intere a cercare di finire tutte 80, se non sbaglio, le stanze in cooperativo con qualcuno che fosse più o meno skillato per potercela fare. E poi scopro che da soli si può finire Portal 2 in cooperativo. Non lo so. La cosa un po' mi ha dato fastidio, però intanto questa è... Rosic Time. È Rosic Time, eh sì, è questa è... Che sì, bisogna fare, così va il mondo. Rock and Rosic, questo qui più che rock and roll. Rock and Rosic, sì, esattamente. Ok, Rampage, il tuo rock and roll. Allora, la mia è veramente seria, Allora, qua stiamo entrando in un campo veramente nerd. Allora, mi è capitato di trovare tra le pubblicità che X-Fire proponeva ai suoi utenti un sito che si chiama playwithme.com, che praticamente offre la possibilità ai nerd di qualunque forma e specie di trovare una ragazza abbastanza carina, diciamo, che soddisfi i suoi gusti, alla quale poter chiedere di giocare, che si trova all'interno del database di questo sito, ai suoi giochi preferiti. Per cui che succede? Tu ti registri, c'è scritto che è gratis, ma io per fini giornalistici ho voluto controllare quanto questo fosse vero. Effettivamente non è vero, è gratis registrarsi ma non accedere al servizio. E poi niente, cioè si sceglie, il prezzo è abbastanza basso, mi pare che fosse 5 euro per un mese, non vorrei dire un'assurdità, però era poco. Ci stanno queste ragazze, uno sceglie e poi gli chiede: ciao, vuoi venire a farti due frag con me? Insomma, sono degli inviti da New Generation Gamer che sicuramente i romantici faranno rivolta nelle loro tombe, diciamo. Niente, questo. Si può fare richiesta per diventare un Otti, così le chiamano. Io ho fatto richiesta, quindi speriamo mi accettino, così avrete l'onore di avere una Otti di playwithme.com nel vostro podcast. Esatto. Cercate Garriden, cioè scusatemi, no Garriden. Rampage. No, Garriden no, ti prego. Rampage. troverete la vostra Otti preferita. Bene, raga, andiamo avanti, veloci con la prossima canzona, sempre da gemento.com. Questa è la scelta di Rampage. Loro sono i Talco, la canzone si chiama Tortuga. A fra poco. We'll be right back. visione, oltre le falde della disinformazione. Lamenti stolti, vuoti impuniti, mani assordati dalla danza dei banditi. Ai piedi di una memoria ingrata, sveglia le storie di una terra liberata, caduta in mare nell'incoscienza, svenduta al banco di una bieca indifferenza. Ebbene di ogni generazione, venti contrari volti alla moderazione, servi del vento, miti traditi, spazzati al largo dalla danza dei banditi. Ve le spiegate sopra giorni abbandonati, salvati a bordo sopra un circo di pirati, su antichi fastidi, macerie e falsi miti, tuona invisibile la danza dei banditi. Tuona invisibile la danza dei banditi. Tuona invisibile la danza dei banditi. La mia terra, fiacca e malata, sono il bandito di un'idea dimenticata. Ma un vecchio canto di idee distorte condanna il sole spalancando le sue porte. Indietro va, madre di Ophria, apre i battenti di Antichirea. Vecchie agonie, nuovi antenati, ma sotto un ponte suona un circo di pirati. Ve le spiegate sopra giorni abbandonati, salvate a bordo sopra un circo di pirati, su antichi fastidi, macerie e falsi miti, torna invisibile la danza dei banditi. Torna invisibile la danza dei banditi. Torna invisibile la danza dei banditi. Con Tortura, non era assolutamente una canzone di parte, no, no, no, non c'erano dei canti comunisti, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, non era una canzone. No, no, no, no, no, no, io non ho sentito il Plebo Unito a Massera Vencido, non l'ho sentito, mi pare di no, mi pare proprio di no. Va bene, proseguiamo, time to play, cioè cosa stiamo giocando, Malloman. Allora, io in questo periodo sto giocando ad Assassin's Creed Brotherhood, come avevo già detto nella scorsa puntata, ma l'ho acquistato originale, quindi mi si è aperto il mondo dell'online. Prima com'era? Non era originale prima. Aiaiaia. Aia. Forse. Vai, va così. Vabbè. Vabbè, dai, abbiamo tutti. Ciao, spie delle CIA che ci state ascoltando. Anzi, della finanza. Vai, comunque, vai, vabbè, continui. Volevo particolarmente elogiare questo lato online che veramente a me piace veramente tantissimo. Soprattutto le modalità ricercato, che praticamente consiste nell'andare ad uccidere la tua preda che è designata. Però bisogna essere veloci, in quanto anche altri giocatori nello stesso tempo inseguono la tua stessa preda, e qualcuno insegue te, quindi devi essere bravo ad uccidere, nel frattempo scappare per non farti uccidere a tua volta. E beh, diciamo che le partite durano 10 minuti, ma veramente sembra neanche uno di minuto, perché sono intensissime, veramente la carica di adrenalina è veramente esagerata. E poi l'altra mia modalità preferita è Assassinio, che è veramente allucinante, in quanto stavolta non si hanno prede precise. Quindi immaginate che voi siete, non so, a un mercato e dovete capire in mezzo alla folla chi sono gli altri giocatori. Quindi il primo che fa il passo falso, che magari, non lo so, si mette a correre o magari fa quel movimento strano, viene subito bersagliato. Ma al contempo bisogna essere bravi a colpire di nascosto, magari da una finestra con la pistola gelata, perché se andate ad ammazzarlo così in mezzo a tutto il mercato, chiunque vi vede e vi ammazza a sua volta. Quindi è veramente bellissima come modalità. Ok, poi hai giocato altro? Sì, poi Portal 2, vabbè, Portal 2 è bellissimo, ma penso che ne parli tu. Sì. E poi anche il secondo DLC di Fallout New Vegas, ovvero Honest Stars, che se non sbaglio parla anche Rampage. Sì. Quindi lasciamo commentare lui, dai. Ok, adesso però abbiamo Garrigan. Eh sì, perché adesso vi faccio divertire con un paio di cose veramente strambe, va. Diciamo che, beh, io sono un giocatore da tardi anni 90, ecco, i tardi anni 90 per me sono il momento del gaming forse più bello, e anche Dario, da inizio 2000, Dario, poi da lì sì, in poi... Garrigan ha 19 anni, ma è nato nell'80, diciamo, quindi... sì, no, negli quindi... anni 80 no, che gli anni 80 sono brutti, dai, nei 90 effettivamente... Che cosa dire? Io ho giocato molto da piccolo, effettivamente uno dei giochi che da piccolo mi ha scioccato è quello che vi presento oggi, si chiama Giants Citizen Kabuto. Ora, la cosa assurda di questo gioco è che è un gioco famoso, ma è clamorosamente non giocato, nel senso che al tempo era famoso, ha preso anche delle ottime review, ma non è stato mai tanto apprezzato dalla critica per molti motivi. Io vi posso assicurare che è un gioco veramente incredibile, sia per il suo tempo sia adesso che è davvero giocabile. Mi sono trovato a giocarlo adesso e mi sono divertito parecchio. Che cosa dire? È un gioco che mischia molti generi. La trama è di un'assurdità tale che non provo neanche a raccontarvela. Ci sono dei mech, dei robot che approdano su un'isola piena di degli esseri strani che si chiamano drittoni, che sono messi alle strette da un'altra razza che si chiamano i predoni al mare. In tutto ciò mischiateci un gigantesco enorme, una gigantesca enorme creatura divina che si chiama Kabuto, che viene evocata su quest'isola, e una ragazza con delle curve davvero niente male che si chiama Delphi. Fatto questo, mischiate la trama e avete trovato veramente Citizen Kabuto. È un gioco con un umorismo squallido, veramente il più squallido che abbia mai visto, e per questo vale la pena giocarlo. E tolto l'umorismo squallido, come, scusa? No, niente, c'erano risate di Rampage. È un gioco veramente squallido, per questo vi consiglio di giocarlo. Sì, no, perché è davvero intenditore, se siete gli squallidi lo adorerete. Comunque, al di là di questo, vi dico che il gioco mischia tre tipologie di gioco diverse, anzi forse anche di più se vogliamo dirle, cioè c'è lo sparatutto in prima persona, dove vi muovete, uccidete, insomma c'è parecchie cose, edifici da distruggere, il classico gioco di quegli anni, insomma. Al di là di questo ci sono delle modalità strategiche dove vi troverete a ricreare una base, devo dirlo, sono abbastanza noiose e ripetitive, ma per il tempo un grandissimo tentativo. E poi ci sono delle modalità di corsa, delle gare con dei veicoli che non vi sto ad anticipare indubbiamente, quindi tentavo di mischiare un po' tutto e ci riesce bene. Una piccola nota di fondo: quando vi troverete verso la fine del gioco, noterete lo scazzo tremendo dei programmatori che hanno lasciato dei livelli incompiuti, letteralmente. Cioè, prendendoci chiaro, negli ultimi livelli ci sono i nemici posizionati a cavoli, gli oggetti posizionati a cavoli, perché non c'è stato un level design, forse. È davvero un qualcosa di tragico, però vale la pena vederlo. A livello di ore di gioco è forse uno dei compromessi perfetti. È sconchiuso, giocateci, insomma. Sì, vado io velocemente con i miei giochi. Allora, molto velocemente, ho finito Mega Man X7 e X8, come avevo detto alla scorsa puntata di Nerdcast. Li ho finiti perché sto preparando, è quasi concluso, lo speciale sugli altri 3 Mega Man, X4, X5, X6, che probabilmente uscirà con la stessa tempistica di una puntata, perché il mese di giugno, lo possiamo dire da ora, il mese di giugno per tutti noi quattro sarà un mese infernale. Chi esami di stato, chi esami di università, quindi un bordello. Quindi vedrò se far uscire uno speciale io su Mega Man. Poi, oltre a X7 e X8, ho giocato a due principalmente, cioè Portal 2, che ho finito, ed Heavy Rain. Allora, su Portal 2, come sempre, ci sarebbe tantissimo da dire. Qua Portal 2 l'abbiamo giocato più o meno tutti, tranne, mi pare di capire, Rampage. No, l'ho giocato poco, non è che non l'ho giocato. Però comunque il giudizio di chi l'ha giocato è finito, è unanime, nel senso che probabilmente fino Amazing. Ad ora, nel 2011, è forse il gioco migliore del 2011, possiamo dire, secondo noi. Io lo ritengo per ora il gioco migliore del 2011. Non c'è. A me ha affascinato veramente tantissimo, lo metto sì tra i migliori, dai. E quindi sì, di Portal 2 anche di questo se ne è parlato tantissimo, non c'è molto da aggiungere, è un gioco che va semplicemente giocato, scaricato 3000 volte, apprezzato e basta, perché se lo merita, insomma, ed ha venduto tantissime copie ovviamente. Dimmi un po', Murtag, te l'aspettavi che la colonna sonora finale fosse all'altezza del primo? A mio parere lo è stata incredibile, davvero. Non lo so se è l'altezza del primo. Il fatto è che la prima colonna sonora era troppo epica, capito? Ha sì, un alone di. Sì, è diventato di un classico. È troppo epica. Mamma mia. Però bellissima. La seconda è epica pure. Cioè, Jonathan Coulton, che è praticamente quello che ha fatto le due sigle, è un dio. Questo, vabbè, lo sappiamo. Ne tratteremo in un futuro. Sì, ne tratterei. In effetti, sì, nel prossimo episodio lo dobbiamo trattare assolutamente. Eh sì, spoiler. La sigla finale è pazzesca. Cioè. È geniale pure quello. Quindi l'unica cosa che mi ha deluso di Portal 2 è stata la Limited Edition. Perché nella Limited Edition praticamente ti danno solo un cubo di Rubik con scritto Valve. Beh, insomma, diciamo, di Portal 2 i gadget che si potevano dare nella Limited Edition erano veramente... Boom, tu non li compri i giochi, quindi sì. Che problemi ti poni? No, pure di Assassin's Creed ho preso la Limited Edition. Alla prossima puntata non avremo più Malloven, perché sarà a scontare la sua pelle. Avremo l'avvocato di Malloven, probabilmente. Sì, e te ne consiglio uno bravo. E benvenuti da Murtag, Rampage, Garriden e l'avvocato, mettete un nome, avvocato Rossi. Ghedini. Avvocato che no, zitti. Non facciamo zitti. Scherzi. Zitti. Ok, dai, per favore. Continuo, l'ultimo gioco, Heavy Rain, esclusiva PS3, è uscito l'anno scorso, il 2010, io l'ho acquistato solo una settimana fa, purtroppo. L'ho giocato, l'ho divorato, è bellissimo, stupendo. Se avete giocato Fahrenheit sapete di che cosa sto parlando, Quick Time Events, diciamo. È un gioco tutto basato ovviamente sulla trama, quasi solo sulla trama. L'unica interazione sono praticamente i Quick Time Events, e nonostante questo è un gioco che ti porta a non staccarti più. Anche questo poteva essere negli addictive, nel senso che è un gioco che si basa solo sulla trama, quasi esclusivamente sulla trama, sulle scelte del giocatore, ed è originalissimo, è stupendo. Chiunque abbia una PS3, secondo me lo deve acquistare e provare assolutamente. Chi è rimasto? Rampage? Cosa hai giocato tu? Sì, allora io ho giocato a tanti giochi, in realtà vi parlo di due in particolare. Allora, ho giocato a Sniper Ghost Warrior Basic Tactics, che è un gioco abbastanza recente, che è veramente, allora, graficamente uno dei giochi più pesanti che il mio computer abbia avuto l'onore di supportare, che devo dire non ho giocato in modo particolarmente, cioè non ci ho giocato per tante ore, però ho capito il tipo di gioco. È innanzitutto un FPS, nient'altro, quindi non vi aspettate grandi storie o trame, non è fatto per quello. È un gioco che a mio parere è stato creato per dare un vero tocco di realismo agli FPS, nel senso si gioca, da quello che ho avuto modo di vedere, soltanto con il cecchino. Non so se si sblocchino altri tipi di classi andando avanti, ed è fondamentale mantenere una disciplina nei movimenti, uno stile effettivamente come lo manterrebbe un militare nei vostri panni. C'è un uomo che vi dà delle direttive tramite una radiolina. Voi dovete seguire forzatamente i suoi i suoi inviti, altrimenti non è un gioco fatto per uscire allo scoperto e sparare all'impazzata, perché si muore. Cioè è un gioco dove se vi prendono anche con l'arma più all'ultimo posto del gioco, comunque vi feriscono gravemente e morite. È un gioco che si gioca soltanto di tattica, la grafica è spaventosa. I dettagli sono curati benissimo, ogni colpo che sparate alla telecamera che viene spostata sulla cinematica del proiettile, che viene seguita in maniera molto cinematografica, quindi molto ben costruita da questo punto di vista. D'altronde è un gioco per cecchini, quindi molto lento, e niente, io ve lo consiglio perché è molto interessante come stile, visto che di solito gli FPS possono essere facilmente aggirati giocando di brutalità e mai di tattica, che invece è una cosa che io apprezzo molto nei giochi. E poi ho avuto il piacere di giocare una DLC piacevole, l'ultima uscita di Fallout New Vegas, che è Honest Hearts. Allora, quella precedente, Dead Money, che era stata rilasciata, non mi aveva lasciato particolarmente colpito, anzi mi aveva annoiato a tal punto che non ci ho giocato più di un'ora forse. Invece Honest Hearts, devo dire che nonostante comunque non sia il tipo di DLC che io mi aspetto, ovvero estensiva nei riguardi della trama principale ma soltanto opzionale, ha una trama abbastanza ben definita, ci avvicina a un personaggio che è molto famoso, non vi rivelo qual è, però che sicuramente se avete giocato a New Vegas ne avete quantomeno sentito parlare o avete letto i suoi nomi in giro per la strada. E niente, vi trovate praticamente ad essere il corriere, il membro di una spedizione che va in un lato totalmente nuovo della mappa, che è il parco nazionale della Zion, dove ovviamente adesso ci sono degli insediamenti tribali. E niente, la cosa si svolge in maniera abbastanza breve, quindi qualunque dettaglio vi rivelassi sarebbe troppo esplicativo, troppo spoileroso, quindi io vi dico soltanto: se aspettavate una buona DLC per New Vegas, procuratevi Honest Hearts e non ve ne pentirete. Ok, c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Beh sì, io volevo aggiungere solo una piccola cosa su questo DLC di Dead Money e di New Vegas. Appunto, Dead Money ha lasciato deluso anche un po' me, perché comunque non ha il carattere di Fallout, sembra quasi un survival horror. Esatto, non so se... esatto, perfetto. Cioè è proprio veramente angosciante, quella cosa, è claustrofobico, non lo so, però comunque dai, non dico che a me non è piaciuto, perché comunque poi andando avanti, quando si supera la zona claustrofobica, insomma quando ti levi il collare, comincia a diventare più simpatico. Un'ultimissima cosa, io mi sono scordato di dire che ho giocato anche ad un gioco difficilissimo che si chiama Vai alle lezioni di microeconomia e rimani sveglio. È un gioco difficile. Diciamo che è un RPG, diciamo, è molto realistico. È abbastanza tosto, perché rimanere sveglio non è facile. L'hai finito? L'ho finito, diciamo che l'ho finito. Adesso sto aspettando le espansioni, che dovrebbero finire verso fine giugno. Dovrebbe uscire verso fine giugno, esce l'espansione. Quindi sì, questo. Passiamo ad un'altra parte di Nerdcast che è nuova. Sono le recensioni. La scorsa puntata non abbiamo avuto il tempo, purtroppo, perché abbiamo fatto una puntata molto lunga. non abbiamo avuto praticamente il tempo di fare le recensioni. Non si tratta di recensioni di videogiochi, si tratta di recensioni in realtà di tutto il resto, cioè film, fumetti, serie TV, libri, eccetera. Cioè tutto ciò che ha a che fare, cioè non, che non ha proprio a che fare col mondo nerd, ma che comunque è nerd nell'anima, diciamo. Quindi parte con una recensione, Malloman, prego. Sì, va bene. Allora, io vorrei recensire il sesto album di Giovanni Allevi, che è Alien. Dunque, questo disco è uscito il 28 settembre del 2010, che ho comprato, attenzione s'il vous plaît, che ho comprato, e conta 11 tracce, ho nella versione deluxe 12, che ha una traccia bonus che si tratta del, del notturno in re bemolle opera 27 numero 2 di Chopin, suonata da Allevi ovviamente. E beh, queste 11 track sono veramente belle, io ne ho apprezzate particolarmente 4, che sono Secret Love, Close to Me, Tokyo Station e Giochi d'acqua, e anche sì, la sonata in mi bemolle maggiore. E soprattutto Secret Love e Close to Me sono veramente poesia, nonostante Allevi sia criticato tantissimo da, dagli altri musicisti, secondo me ha un modo di fare musica che, nonostante non sia, vabbè, non sia tutto questo grande, queste grandi opere, no, però la musica sua è veramente poesia in alcuni brani. Sì, sì, sì, assolutamente. Noi ti lasciamo o vuoi continuare un altro poco? Perché sappiamo che tu te ne devi andare. No, no, continuo fino alla fine di questa rubrica, poi lascio, okay. Dai. Ok, ok. Rampage? Sì, io ho per voi un film che si allontana molto dal genere di cose di cui parliamo di solito in questo podcast, che ho visto un poco tempo fa, ma che in realtà è un film non recentissimo. Si chiama American History X. Non vi anticipo nulla, è un film veramente commovente per quanto riguardi un argomento molto caro soprattutto ai più giovani di voi, insomma, mostra come in realtà non esistano buoni o cattivi al mondo, che basta essere vittime delle ideologie per cadere sempre nei soliti errori. Io vi invito a vederlo, non vi voglio parlare di nulla perché è veramente un film che vi lascia senza parole. E diciamo che sulla scia dei film, come dire, quei film un po' di cospirazioni, cose simili. Non saprei bene se definirlo. Non è di quel genere. Allora, non è neanche un film contro il nazismo come può sembrare, cioè è anche contro il nazismo, però è un film in generale contro la facilità con cui le persone vengono trascinate dietro delle false ideologie, ecco. Allora io mi allaccio a te con la mia recensione di un film, e questo è abbastanza famoso, si chiama Zeitgeist. Lo pubblicizzo come posso, perché Zeitgeist è il film che mi ha aperto gli occhi più in assoluto. È un film, questo invece è cospirativo, nel senso che parla di verità false, verità truccate, di come i governi mondiali, soprattutto quello americano, ci prenda in giro. È un film che ti apre la mente in modo pazzesco, ed è impossibile pensarla in modo diverso, cioè è impossibile non modificare il proprio pensiero dopo aver visto questo film. Io invito tutti ad andare a vedere Zeitgeist, che mi pare si trova in streaming molto facilmente. Il guardarlo in streaming è portato avanti anche dagli stessi produttori di Zeitgeist, il quale scopo non è vendere il film, è spargere l'ideologia. Insomma, in Zeitgeist si parla delle religioni, si parla dell'attentato dell'11 settembre, si parla dell'economia mondiale, soprattutto quella americana, e insomma, non lo so, se guardatelo se vi sentite felici, ecco, perché se state tristi vi intristisce ancora di più. Questo, quindi ve lo consiglio. Bene, siamo arrivati alla fine delle recensioni. Garriden non ha nulla da recensire questa volta. E noi salutiamo il nostro caro Malloman. Che bene, ciao a tutti. Ricordo il Twitter che è semplicemente Malloman, per chi volesse seguire i miei tweet. E va bene, vi saluto. Buonanotte a tutti, perché da noi si è fatto veramente molto tardi. È l'una, quindi io vi saluto. Buonanotte a tutti e buon ascolto per fine sì, puntata. Vai a dormire. Vado. Buonanotte dunque. Buonanotte a tutti. Vai. Allora, c'è da dire una cosa. Ormai qua siamo proprio di casa, gente che entra, gente che esce, cose non si capisce più. È un albergo questo Nerdcast, è un albergo, comunque diciamo una cosa, abbiamo fatto recensioni prima, di solito le recensioni sono verso la fine del podcast, però l'abbiamo fatta prima perché appunto il nostro Malloman se ne doveva sloggiare. Continuiamo, allora io continuerei col mio spazio personale, Onigiri, se voi siete d'accordo. Che ne dite? No, non siamo d'accordo, vogliamo andare a dormire. Volete andare a dormire? Quindi faccio Nigiri e Retro Space da solo. Andate. Va bene, ciao. Va bene, ciao. Questa è la sigla di Onigiri. Ok, Onigiri, per continuare la tradizione giapponerd di Nerdcast, abbiamo in realtà poche cose da commentare, andiamo veloci. Partiamo da alcune news. Allora, ritorna Hunter x Hunter, finalmente. Yoshiro Togashi, già autore di Yu degli Sprettri, si è deciso a far uscire questo dannatissimo volume 28 di Hunter x Hunter, che uscirà in Giappone il 4 luglio, quindi neanche troppo presto. Ovviamente questo è sempre stato a causa dei problemi di salute dell'autore, quindi è stato anche comprensibile una diminuzione, diciamo, nella temporalità di uscita di Hunter x Hunter, però continua Hunter x Hunter, probabilmente speriamo che continuerà il più possibile. Quindi finalmente dopo 2 anni esce un nuovo numero di Hunter x Hunter. Parliamo invece di iPad. iPad, J-pop su iPad. In poche parole, sull'App Store sarà utilizzabile un'applicazione che permetterà di leggere i manga, però soltanto della J-pop, ma in generale un po' tutti i manga. L'iniziativa è stata presentata al Salone del Libro di Torino e insomma è un'idea ovviamente interessante, perché come sappiamo gli ebook stanno spopolando negli ultimi tempi e è interessante anche sapere parlare di un manga sfogliabile su iPad, diciamo su tablet, per ora soltanto su tablet Apple, dunque iPad, e vedere un po' dove andiamo a finire, sarà interessante vedere. Altra notizia, sempre da animeclick.com, come sappiamo ci sarà un nuovo lungometraggio di Full Metal Alchemist Brotherhood, il titolo giapponese è Milos no Sei Nauru Hoshi, che non è stato ancora tradotto. Il film uscirà in Giappone il prossimo 2 luglio. Sono usciti dei trailer che posteremo sulle note dell'episodio. È importante capire, è importante sapere che comunque dopo la fine anche di Fullmetal Alchemist continua ad essere una serie molto apprezzata e molto voluta dai lettori, quindi prevedo che Fullmetal Alchemist non sia realmente finito. Vediamo dove, insomma, andiamo a parare. E infine questa è una notizia proveniente dal Giappone che con i manga non ha molto a che fare, ma volevo riportarla perché un po' mi ha enfatizzato, nel senso che mi ha colpito per la sua proprio crudeltà. Allora, in pratica, un tale di Tokyo, un giapponese, un 38enne disoccupato di nome Mitsuru Imai, ha accoltellato l'8 febbraio 2010, però è stato processato qualche giorno fa, ha accoltellato in pratica un altro uomo giapponese, un 57enne, con diverse appunto coltellate all'addome. È stato ovviamente condannato, ma la cosa pazzesca è che si è scusato, cioè si è giustificato con i giudici, dicendo che era stato un super saiyan a indurlo ad uccidere, ad assaltare l'uomo giapponese. Ed è una cosa abbastanza sconvolgente da sentire, cioè sapere che un super saiyan ti entra in sogno e ti dice di uccidere un'altra persona. Insomma, solo in Giappone possono succedere queste cose. In Italia sarebbe stato qualche santo entrato nel sogno. Sì, questa è brutta, questa è molto brutta. Questa che hai detto è molto brutta. Ciao, ultimo utente cattolico rimasto ad ascoltare il podcast. Poi, finiamo con nella classifica settimanale sempre di Shonen Jump. Leggiamo i primi 5 più votati della classifica settimanale. Partendo dal quinto abbiamo Sked Dance, Naruto, Gintama, One Piece e Toriko come primo più votato con lead cover. Gli ultimi sono Grimm, Okenshitsu no Shinigami e purtroppo Dois Sol, che ne abbiamo parlato nella scorsa puntata di Dois Sol, un manga relativamente nuovo di Shonen Jump, ma che non si smuove praticamente dalle ultime posizioni e quindi rischia davvero di cadere. In quasi tredicesima, quattordicesima posizione abbiamo finalmente Bleach, perché Bleach, come sappiamo, come abbiamo detto l'altra volta, è un manga che ormai sta decadendo. È inutile dire di no, perché è così. La posizione, la settima posizione della settimana, di un mese fa anzi, era assolutamente immeritata. Questa invece è la posizione che si merita Bleach per essere tornato praticamente un manga di media-bassa posizione, se non proprio di bassa posizione, purtroppo. E in più abbiamo ovviamente Bakuman e Belzebub, comunque l'abbiamo come sempre, come a metà posizione, cioè a metà classifica, quindi si mantengono. E oltre questo diciamo che abbiamo finito, ho finito la mia parte di Japonerd. Ritornando dunque al podcast, nel frattempo, non l'abbiamo detto, però il nostro bellissimo Garriden era caduto. L'ho notato io poco fa, ero entrato nel panico, ho detto no, mio Dio. Garriden era caduto e noi adesso lo reintegriamo nella chiamata. Comunque noi continuiamo il Rampage ormai, sperando che Garriden arrivi il più presto. Ci risolvo, c'è. Ah, ci sei? Mamma mia, che cos'è? Miracolo. Ok, ci risei finalmente. Vabbè, comunque meno male che sei caduto proprio nella parte mia. A me infatti ha preso il panico mentre parlavo, non ho visto più Garriden, ho detto vabbè, dobbiamo ricominciare tutto. Allora, partiamo con l'ultima parte di Nerdcast, l'ultima rubrica, i nostri retro game. Malloman non partecipava, quindi non vi preoccupate, non perderete la super recensione del vostro Malloman, perché non ce n'era una. Partiamo con la nuovissima sigla dei retro game di Nerdcast. molto techno style, ma secondo me ci stava. Dunque, retro game, retro space, anzi, come la chiamiamo. Chi vuole iniziare? Mamma mia, c'è un'atmosfera proprio di sonno completo, quindi siamo attivi. Siamo attivi, sicuro. Io almeno sono andato in panico prima, quindi ho detto qualcosa che non pensavo probabilmente. Però, insomma, gli ascoltatori mi scuseranno, dai. Dai, iniziamo. Chi vuole iniziare? C'è qualcuno che vuole iniziare? Parto io. Vai. Come al solito inauguro, dai. Che gioco porto stavolta? Porto un gioco davvero non troppo retro, però decisamente underground. Questo qui è un gioco puzzle, quindi non ha un vero pubblico, diciamo. Si chiamava al tempo, si chiama tuttora, Pushover. Ora, Pushover è un gioco veramente assurdo. È proprio come il gioco che ho portato un'altra volta, è praticamente infinibile. Quindi io propongo, anche se non sapete di cosa si tratta, se volete la mia sfida, provate a finire Pushover e poi mi mandate un tweet su Twitter, devilsteel92, oppure sulla mail del nostro Nerdcast, perché Pushover è un gioco puzzle di una difficoltà inaudita. Il gioco è semplice, c'è una formichina che deve raccogliere delle... non so onestamente cosa fossero, credo fossero biscotti caduti in un formicaio ad una mascotte, un cane. E il problema di fondo è che per raccogliere ogni singolo biscotto deve finire una serie di quadri, puzzle, dove ha la possibilità di muovere dei pezzi di domino. Può spingere un solo pezzo nel corso del quadro e questo deve far cadere tutti gli altri per procedere al quadro successivo. Un domino classico, insomma. Se non si considera il fatto che i singoli pezzi hanno delle abilità, ci sono pezzi a tempo, ci sono pezzi esplosivi, pezzi che si scindono in due parti separate e che, nonostante il gioco sia in 2D, vi assicuro vi complicano la vita non poco. Che cosa dire? Si parte dai quadri che durano 50 secondi, quindi vi danno 50 secondi di tempo per eseguire le mosse, a quadri abbastanza pazzi. No, no, sono quadri abbastanza pazzeschi. Io ricordo uno verso, mi pare sia un centinaio, sì, sono 100. Verso il 90° ne troverete alcuni che solo per eseguire le mosse ci vogliono intorno ai 7 minuti. Cioè, vi lascio immaginare quanto tempo ce ne vogliono per pensarle. Quindi, che dire, è un gioco snervantissimo. Però sono belle le musiche, sono interessanti le musiche, sono carine le ambientazioni, anche se un po' ripetitive, ma comunque a tema. E se siete degli amanti dei puzzle game, dannazione il vostro gioco. Al di là di questo, giocatelo. Se lo finite arriverete al livello 100, dove tutti quanti i pezzi sono marcati, sono tutti quanti gialli e non sapete che cosa fanno esattamente, quindi dovrete indovinarlo. Insomma, divertitevi. Non so che altro dire. Ultimissima cosa, è del 92 per... Sì. Era per SNES, adesso c'è anche la versione PC. È un Abaddonware, se lo beccate anche su sourceforge.net, un sacco di altri siti, quindi buon divertimento. Ok, Rampage, chi vuole finire, io o te? Non lo so, vuoi tu l'onore della fine? Sì. Allora continuo io. Continuo. Facciamo così. Ok, allora, io vi porto un gioco che, se siete degli amanti del retro gaming, sicuramente almeno una volta ci siete capitati, o con i piedi bagnati in una spiaggia, magari davanti a una macchinetta da bar che si sarà mangiata la vostra anima. Sto parlando di Metal Slug. Allora, Metal Slug è veramente uno di quei giochi che definire epico è minimizzare. Non c'è nulla da dire a livello di trame, ovviamente, o qualcos'altro. È un gioco ambientato nel 2028, cosa che ho scoperto soltanto leggendo adesso su Wikipedia i dettagli, ma non me ne ero mai preoccupato. È una versione parodistica della Seconda Guerra Mondiale, se vogliamo. Niente, non c'è niente da spiegare. Un arcade in 2D, ovviamente, si va soltanto verso destra, dovete distruggere qualunque cosa vi capiti davanti. Potete farlo da soli o potete anche giocare in multiplayer. Niente, io personalmente non l'ho mai finito, quindi immagino siano davvero tantissimi livelli. E vi lascerà veramente, è veramente di una, ci sono dei punti in cui raggiungi delle difficoltà che o ti fai venire una crisi epilettica per distruggere il boss che ti ritrovi davanti, oppure hai veramente pochissime speranze. Le armi sono, la grafica è molto divertente, ci sono armi vastissime, la pistola, mitragliatrice pesante, lanciarazzi, lanciafiamme, fucile, bomba molotov, però per il resto niente, giocateci. Sì, beh, Metal Slug è poi reperibile praticamente ovunque. Credo che ancora qualche macchinetta ci sia di Metal Slug. Va bene, finisco io con un giocone, secondo me, retro. Si tratta di Commander Keen. Mitico, davvero grandioso. È un gran gioco. Epico, epico. Commander Keen, sviluppato da ID Software, data 1990. Io... mi permettete di dire anche che è stato uno dei promotori della demenzialità nei videogiochi, anche prima di Monkey Island, che ovviamente è ricordato come forse il gioco più demente, diciamo, e sarcastico della storia. Però anche Commander Keen non ci scherzava. Commander Keen, appunto, nel 90, piattaforma per diciamo MS-DOS, al giorno d'oggi lo potete giocare con DOSBox, come sto facendo io appunto in questi giorni, che mi sto praticamente rifinendo tutti gli episodi. Sono 6 episodi. Sono una marea. Sì, sono 6 episodi, ma anche di più, nel senso che poi la fanbase ha creato altri episodi su episodi, cioè, insomma, è famosissimo. Allora, Commander Keen è questo 2D, ovviamente, a scorrimento, dove si controlla questo omino, diciamo, appunto il comandante Keen, che in realtà si chiama Billy Blades, il quale è un piccolo genio di 8 anni, che nonostante la sua nonostante la sua età, riesce a costruire un razzo, diciamo, spaziale, riesce ad andare nello spazio, e approda nel primo episodio su Marte, per poi approdare sulla navicella dei nemici, eccetera. Il problema è che i nemici sempre depredano, diciamo, la navicella di Commander Keen di qualche pezzo, che poi nel corso dell'avventura Commander Keen deve recuperare. Quello che secondo me fa questo gioco interessantissimo, allora, sono varie cose. A parte il sonoro, che secondo me per l'epoca era superlativo, pazzesco. Poi anche il design. Io credo che il design anche al giorno d'oggi non sia battuto da nessun altro gioco. Cioè, un design tutto suo, un design che si trova solo in questo Commander Keen, non si trova da nessun'altra parte. E poi ha un'atmosfera tutta sua, cioè oltre alla demenzialità, che ci sta, insomma, si sente già dalle prime battute, perché insomma un bambino di 8 anni che costruisce il mega razzo è già strano di suo. Grandioso. Però, insomma, anche l'ambientazione. A me è sempre piaciuta l'ambientazione tantissimo di Commander Keen, perché, vabbè che giocandolo da piccolo aveva già un fascino maggiore, però anche ora che lo sto riprendendo mi rendo conto che è unico nel suo genere ed è insuperabile, secondo me, assolutamente insuperabile. È un gioco che è consigliato a tutti quelli che magari a cui è piaciuto, che ne so, Monkey Island, a cui piacciono uno di questi generi di giochi un po' primi anni 90, anche un po', come detto prima, un po' demenziali. E insomma, non me ne pentirete, credo io. Cioè, è un gioco, è un must have per tutti quelli che si definiscono nerd, diciamo, secondo me. L'hai finiti? Cosa? Tutti i Commander Keen. E allora, io sono arrivato al quarto quando ero piccolo. Perché yeah, poi l'ho lasciati. Io li ho finiti tutti. E quindi li finisco tutti quanti. Però, genial, insomma. Ma ricorderete il mitico tributo a Pong nei menu di Commander Keen? Ma non ricordo quale dei tanti. E mi sa che è il 4. Forse proprio. Sì, forse proprio il quarto. C'era, cioè, questo tributo dove potevi giocare una versione di Pong rifatta dai programmatori di Commander Keen. Sì. Insomma, è geniale. Il 4 è il più famoso, diciamo. Credo fosse il più famoso. Va bene, noi siamo arrivati finalmente alla fine di Nerdcast 12. E l'1 è 19. Sì, è lungo 2 ore e 20 più o meno, quindi wow. Prima di lasciarvi con l'ultima canzone ai saluti, i contatti, dunque, email nerdocast@gmail.com con una O tra nerd e cast. Il gruppo Facebook, basta scrivere Nerdcast con il logo appunto di Nerdcast. Il blog www.nerdpodcast.blogspot.com. I Twitter, allora ricordiamo quello di Malloman, che appunto è Malloman. Il mio è Nerdpats. I vostri? Wish Freedom è DevilSir92 su Twitter. Se ci volete aggiungere, noi non vi noi non siamo come quei bastardi americani che vi rifiutano la richiesta, ecco. Io sto dicendo non vi aggiungeremo. Sei un bastardo americano. Per il resto scriveteci dei commenti sul blog o mandateci un'email. E ricordatevi di questo, è un favore proprio personale. Se vi piace Nerdcast, andate sulla pagina di iTunes e per favore alzate il ranking delle stelle, perché c'è una sola recensione con una stella, ma è riferita a un anno fa, quando Nerdcast era un po' più, possiamo dirlo, quando c'era solo il giapponese, quando c'erano solo i giapponesi. Quindi se vi piace Nerdcast, vabbè, se non vi piace potete pure votare una stella come volete voi, però se vi piace dai. Almeno saranno due stelle sommate. Vi mandiamo un pezzo di Garriden a casa, un pezzo del culo, mio Dio. Ve lo mandiamo, non c'è problema. Va bene ragazzi, è stata una bella puntata come sempre. Noi ci rivediamo, come detto prima, giugno è un periodo bruttissimo per tutti e quattro, quindi credo che l'unica cosa sarà un mio speciale sui Mega Man X4, X5, X6. Dopo il periodo difficile degli esami credo che ritorneremo, quindi ve lo diciamo già da ora, una puntata lunga di Nerdcast da rimandare ad un mese d'oltre, credo, non so, voi che dite? Dipende, insomma, se vediamo tanti dipende. Like, facciamo un'edizione speciale fra una settimana. Dopodomani la facciamo. E che cosa è successo? Va ci bene, dai. Di lavorare, insomma, va. Chiudiamo qui. Noi mettiamo l'ultima canzone, vi salutiamo, vi auguriamo buonanotte, anche se almeno per quanto riguarda me non andrò a dormire ancora, purtroppo. Neanch'io. Purtroppo la mia insonnia non me lo consente. Non siamo mica Malloman qui. Decisamente. No. L'ultima canzone è dei La Limoncello, credo si pronunci così. Sì, si pronuncia così. Va bene. Ah, sì, ricordiamo che è il solito Rampage che ha trovato le canzoni, che non sono comuniste, diciamo la verità. Le canzoni no, non sono belle. Non sono comuniste, no. E questa canzone non vi sembrerà comunista, e neanche ska, quindi non vi preoccupate. Sono i La Limoncello con Hasta Que La Vida, e noi ci sentiamo a Nerdcast 13, o ad uno speciale. Ciao a tutti quanti. Stay tuned. E buonanotte. Ciao. Get up, stand up. Get up, stand up. Don't give up the fight. Don't